Amici sportivi, buonasera e benvenuti al commento da bordo campo, la puntata del lunedì sera. Purtroppo parleremo di argomenti poco felici per i colori gialloblu. Infatti l'Ischia sulla Verde, dopo aver fallito la vittoria del campionato, esce anche subito dai playoff. Eliminata al primo turno la squadra gialloblu, che subisce un pesante 4-0 in casa da parte della squadra di Giovanni Ferraro, ovvero la casertana. È andata invece molto meglio al Forio, che batte il Succivo Cielo del 2-0 e conquista così nella gara playout la salvezza nel campionato di promozione. E allora vi vado subito a presentare gli ospiti che sono qui con noi questa sera. Vediamo subito la telecamera di Vito Barnaba, chi ci inquadra. E allora partiamo subito dall'opinionista Zampognaro, Pangrazio Arcamone. Ciao Pangrazio, buonasera. Io ovviamente mi permetto di scherzare con Pangrazio, e questa sera però è un po' solo, visto che Antonio Senese non ci ha raggiunto ancora e forse lo farà con un po' di ritardo. E poi alla sinistra di Pangrazio Arcamone c'è la storia dell'Ischia Calcio, mister dei gialloblu dal 2006-2007 fino al novembre del 2010. Si dimise dopo un Casarano Ischia 2-1, però soprattutto è stato la bandiera del giocatore dell'Ischia Isola Verde, Franco Impagliazzo. Mister, buonasera. Buonasera. E poi c'è il grande protagonista della gara play-out, Furio Cellolo e Succivo, ovvero Ivano Esindi. Ciao Ivano. Buonasera, buonasera a tutti. Ivano ha realizzato un gran gol e poi ha servito a Musella la palla per il gol che ha sbloccato la gara. Però vedremo queste giocate nella seconda parte della nostra trasmissione. Allora, subito i contatti 081 98 19 91 a bordocampo, @libero.it, e poi ci potete scrivere su Facebook sul nostro contatto a bordocampo. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo per parlare di Ischia Casertana. Hotel Le Querce, un panorama incantevole per i tuoi momenti importanti. Matrimoni ed eventi in ambienti eleganti e raffinati, l'esclusivo in ogni particolare. E per gli sposi, una meravigliosa suite per la prima notte. La cornice unica che rende il tuo evento indimenticabile. Hotel Le Querce. Buono pubblicità. La nostra lunga storia è garanzia per la tua immagine. Per la tua salute scegli Fisio Aragonese. Medici e professionisti con attrezzature di nuovissima generazione hanno la soluzione per ogni tuo problema. Laser ad alta potenza, TECAR, SIT, riabilitazione ortopedica, neurologica, posturale ed elettroterapia. Siamo in grado di ridurre un'infiammazione, togliere il dolore, migliorare il movimento articolare, abbreviare i tempi di recupero motorio. Grazie alla pedana propriocettiva Tecnobody, curiamo le patologie di anca, ginocchio, tibio-tarsiche, lesioni meniscali, traumi della caviglia, soprattutto nel periodo post-operatorio. Ginnastica correttiva per bambini, ginnastica posturale per adulti e Pilates. Presso il Centro Medico Aragonese, in via Giambattista Vico, ad Ischia Ponte. Fisio Aragonese, per il tuo corpo, per la tua salute. Il nuoto, lo sport più completo. L'Ischia Nuoto ti attende alla piscina comunale di Ischia ogni mercoledì e venerdì. Con l'Ischia Nuoto troverai insegnanti esperti per nuoto per bambini, nuoto agonistico, nuoto per adulti e la tonificante ginnastica in acqua. Il mercoledì e venerdì il tuo appuntamento con lo sport è con l'Ischia Nuoto. Da noi puoi conseguire il brevetto per bagnino di salvataggio. L'Ischia Nuoto, per lo sport, per la salute. Le Casinò, prima sull'isola di Ischia, in una sala esclusiva, ti propone le Video Lotteries, con tante vincite immediate, da 5.000 a 100.000 euro, fino a sbancare tutto con il jackpot nazionale, con 500.000 euro di super vincita. Le Casinò, la rivoluzione del gioco, riservata agli appassionati delle slot machine. Le Casinò a Forio, un mondo con vincite di un altro mondo. Ischia Surgel Food 2. Ecco il momento delle grandi offerte su carne bianca e pesce. Pollo a 2,80 euro al chilo, coniglio a 6 euro al chilo, spigole e dorate fresche a 5,50 euro al chilo. Tutto IVA inclusa. Ischia Surgel Food 2 è carni, pesce, salumeria, pasta, coloniali, fresco e congelato, ma soprattutto marche di altissima qualità, a prezzi mai visti prima. Siamo nei locali dell'ex cantina sociale di Ischia. Non perderti le nostre grandi offerte. Pollo a 2,80 euro e coniglio a 6 euro. Spigole e dorate fresche a 5,50 euro. Ischia Surgel Food 2. Grandi marche, grande risparmio. Per noi il cliente non è un pollo da spennare. Rieccoci col commento di bordo campo. Allora va subito fuori l'Ischia Salaverde dai playoff. Sconfitta a Fondobosso, ovvero tra le muramiche, dalla Casertana. Un 4-0 con una gara che è molto equilibrata nella prima mezz'ora di gioco. Poi tra il 32esimo e il 34esimo minuto due episodi chiave, ovvero il gol di Burgos e l'espulsione di Fabio Tito. E nella ripresa poi sono gli ospiti a dilagare con una doppietta di Pastore, ancora con Maiella. Le immagini. L'Ischia Salaverde, Ciro Bilardi, la Casertana e Giovanni Ferraro. Andiamo a dare le tue formazioni. La Casertana impiega col numero 1 Roncone, 2 Caldore, 3 Stigliano, 4 Burgos, 5 Ginobili, 6 Alcorogi, 7 Di Rucco, 8 Pontillo, 9 Mortelliti, 10 Di Matera, 11 Maiella. In panchina col tecnico Giovanni Ferraro siedono in bimbo Nuzzo, Esposito, Biondi, Quinto, Sorrentino e Pastore. La risposta dell'Ischia invece è affidata a Incarnato, un 2 Finizio, 3 Tito, 4 Sabia, 5 Micallo, 6 Ranone, 7 Trofa, 8 De Rosa, 9 Mazzeo, 10 Manzo e 11 Peppe Osiello. In panchina con Ciro Bilardi siedono Tufano, Sommella, Chiarriello, Minauda, Piscopo, Saurino e il Cobra Cosimo Sarli. Tommaso Manzo alla bagnerina, soluzione lunghissima sul secondo palo, c'è la rovesciata di Ranone, poi il colpo di testa da parte di Maiella. La rovesciata era di Micallo. Sabia, Trofa, palla ancora verso Micallo, un po' lenta, allora può allontanare la Casertana. Che centrale, Ausiello, si allarga sulla sinistra Davide Trofa, la palla è per Luce, anche Tito da quelle parti. Lo serve in questo istante Trofa, Fabio Tito, poi segue il traversone, lo fa. Mazzeo posizionato al centro, finisce giù, è finito giù Mazzeo. Di Matera, soluzione basta per Pontillo che tenta la conclusione. Anche l'ipotesi tridente con Tommaso Manzo, Marco Mazzeo e anche Cosimo Sarli. Dalla bandierina Manzo, Rainone sul secondo palo, Roncone. Tacon 65. Sorrentino tocca la prima palla da quando è entrato in campo. Burgos, attenzione al numero 4, Mortelliti. Il suo Gaeta l'anno scorso vinse con 1-0. Burgos in aria. Casertana in vantaggio, 32 di gioco. Burgos batte Incarnato, ma quanta libertà per il numero 4 la Casertana, che nell'area di rigore ha avuto il tempo di controllare la palla e poi di battere Incarnato. Sentiamo subito il collega Armando. È quasi il pubblico a chiamare l'uomo a De Rosa, che era Mortelliti. Sabia allarga per Tito sulla sinistra e giù Tito. Cartellino giallo, era già ammonito Tito, era già ammonito. Clamoroso. Episodio clamoroso allo stadio Mazzella, 34 di gioco, era l'unico ammonito alla gara, Fabio Tito. Di Matera conclude, Incarnato ci mette la punta alle dita, la devia in calcio d'angolo. Casertana vicina al 2-0. Squadra sorpresa, appena promossa all'eccellenza, ma allestita con grande competenza da direttore sportivo Costaiola. Ausiello, l'apertura, Davide Trofa, ed è di rigore. Trofa la mette in mezzo, il velo di Manzo, Ausiello, e adesso lo spazio è chiuso, arriva De Rosa. Ma giganteggia lì dietro Ginobili, occhio di partenza Casertana, c'è tutto solo Di Matera da quell'altra parte, la palla è proprio per lui, prova a metterla in mezzo, su. È una furia De Rosa, poi Sorrentino, attenzione perché ci sarà cartellino per De Rosa, e adesso lo stadio Mazzella è una bolgia. Tutti contro l'arbitro, che dice a Bilardi di non uscire all'area tecnica. È finito giù Sorrentino, credo un colpo al volto per lui. Ho visto le mani sul volto del giovane giocatore numero 17. Nel frattempo si sono accesi gli animi in campo, i giocatori che discutono. Per Trofi, allora possibilità di ripartenza per la Casertana. Sorrentino va in velocità sulla sinistra, per via centrale c'è Mortelliti, c'è Di Matera da quell'altra parte, tutto solo Mortelliti, voleva cercare ancora Sorrentino, poi conclude il numero 9, Maiella in fuorigioco. Bentornati allo stadio Enzo Mazzella di Ischia. Il secondo tempo del primo turno dei playoff. A sfidarsi sono l'Ischia e la Casertana. La prima frazione di gioco si è chiusa con la squadra ospite in vantaggio per 1-0. Grazie come Ischia e Casertana, la carta playoff. Di Matera andrà lui a battere, lo fa. La palla finisce fuori. La rincorsa al numero 10 Schitano, la palla direttamente in porta, finisce fuori. Arriva e allora prova a farsi largo sulla corsia di destra, viene inseguito da Burgos, prova a sfruttare la sua grande capacità di corsa, trova che adesso esegue il traversone, c'è Manzo, miracolo di Roncone sul colpo di testa di Tommaso Manzo. Tommaso Manzo, la bandierina e colpo di testa da parte di Micallo. Il pallone e allora lo tiene in campo Mazzeo, attenzione perché Mazzeo è riuscito a recuperare una palla che avevamo battezzato già fuori. Il tentativo poi Tommaso Manzo viene. Va bene così. Antonio, seguiamo questa manovra della Casertana con Finizio che allontana prima sulla palla giunga Maiella. Grazie dunque a Antonio Senese che ritroveremo domani sera nel commento di bordo campo. Nel frattempo il Mazzella è un Albolgia. Contillo allarga sua destra, Di Matera sta arrivando in sovrapposizione il numero 2, Caldore, la palla è proprio per lui, Caldore in aria, la mette in mezzo, 2-0 Casertana, Pastore. Per recuperarla. Bilardi nel frattempo sta per mandare in campo anche Saurino al posto di Dainone, ma c'è ancora una chance per la Casertana, occhio a Maiella, sua destra c'è tutto solo Pastore in area di rigore, Maiella la mette in mezzo adesso, Pastore, sono tre. Armando Serpe, game over alla partita qui al Mazzella, la Casertana va avanti nei playoff. Allora io Di Matera in area di rigore, Di Matera la mette in mezzo, Maiella, sono quattro e ci sono gli applausi dei tifosi dell'Ischia al gol della Casertana. Può prendersi secondo me solo con la sfortuna, con l'arbitro che ha buttato fuori il tiro dopo 30 minuti, poi lì la partita è stata solo in salita, l'Ischia è stata brava, attenzione. Non ne vuole sapere oggi di entrare, la palla molto approfondita, quella da fare sull'Ischia Isolaverde, che ha acquistato dei calciatori fortissimi, probabilmente i migliori sulla piazza. Attenzione a Sarli, Roncone. Probabilmente i migliori sulla piazza, però io chiedo al collega Mario Lubrano un'ultima battuta. Mario, ovviamente cerchiamo di lasciarci alle spalle questa domenica amara, questa domenica triste e guardiamo al futuro. Credi nel progetto Lello Carlino? Sì, un flash perché è finita la gara. Sì, ovviamente tutte le premesse sono buone. L'Ischia, l'epilogo, ci si aspettava un epilogo diverso da questo campionato, però il futuro per l'Ischia appare roseo. Speriamo che la situazione si evolverà al meglio. Grazie dunque ai colleghi. Fa male di vederle anche il giorno dopo queste immagini. Un 4-0, quattro ceffoni rifilati alla Casertana all'Ischia Isolaverde. Ovviamente con Ivano Esini noi faremo discussioni un po' più generiche sulla partita e soprattutto sul campione dell'Ischia Isolaverde, perché Ivano in contemporanea alla gara dell'Ischia Isolaverde era impegnato nel play-out con il Foglio, quindi non ha potuto vedere la partita. Però Ivano, ti aspettavi una batosta così netta da parte dell'Ischia? Ma io credo che l'Ischia fosse, credevo che fosse favorita, almeno sulla carta. Poi ovviamente insomma il giudice è il campo e purtroppo l'Ischia io penso sia stata anche molto sfortunata. E la sconfitta è pesante, però purtroppo va accettato il risultato del campo. Mister Impagliazzo, una figura barbina, così l'ha sintetizzata Ciro Bilardi ieri in sala stampa, ed effettivamente sono parole che azzeccate, parole che rispecchiano appieno quello che si è visto in campo, perché la Casertana probabilmente ha meritato di più, al di là degli episodi che poi tra poco rivedremo. Certamente il risultato parla da solo e quindi non si può recriminare poi alla fin fine su quello che è stato l'andamento della gara, perché il divario è stato troppo evidente tra le due squadre. L'Ischia è sicuramente penalizzata anche dall'uscita di Tito, perché secondo il mio punto di vista l'Ischia nella prima mezz'ora stava giocando più che dignitosamente, meglio della Casertana, aveva il pallino del gioco in mano, però poi la prima occasione è stata trafitta e da quel momento, successivamente con l'espulsione di Tito dopo subito un minuto, la partita si è messa in salita e mi è sembrato che poi nel secondo tempo una mancanza di lucidità, una mancanza di crederci ancora nel risultato con l'uomo in meno ha fatto sì che poi la partita scaturisse nel modo che nessuno di noi si aspettasse. Ma se dico che la Casertana era più in palla di noi strategicamente che psicologicamente, sbaglio, mister? Ma io nell'ultimo scorcio di campionato deve essere fatto solo un plauso a Ciro Bilardi per quello che è riuscito a tenere, perché qua nessuno nelle ultime quattro partite avrebbe avuto il coraggio di tenere l'Ischia in piedi. L'Ischia ha fatto con Ciro 10 punti su 12, e ha cercato di trarre il meglio di quello che erano rimasti della rosa e dell'efficienza di questa squadra che aveva ormai mollato mentalmente quello che erano le, diciamoci la verità, quello che erano le velleità iniziali del campionato. Dopo la partita con il Sinese Matera in casa, Dischi aveva mollato mentalmente su quello e solo Ciro è riuscito a raddrizzare una barca che almeno fino a quel momento stava andando dalla deriva, e ha avuto anche la capacità di mantenere saldo il terzo posto che gli consentiva di mantenere di disputare la partita in casa. Purtroppo per la partita è andata come è andata, però al riguardo Lischi è arrivato non con, secondo il mio punto di vista, non con la forza e la determinazione, e lo stesso pubblico non è che si aspettasse più di tanto da quello che potevano essere i playoff. Quindi è stata una partita che non fa testo, però fanno testo le altre quattro partite dove Lischia comunque con Ciro si è ben disimpegnato. Aveva preso un compito difficilissimo mister Bilardi, si era assunto un compito davvero davvero arduo, viste le tante situazioni che sono verificate poi nell'arco della stagione. Io, prima di dare la parola a Pangrazio Arcamone, mi devo scusare con gli amici da casa perché ieri non ho avuto la possibilità di essere allo stadio Mazzella per vedere Ischia Casertana, per fare la telecronaca come il mio lavoro mi impone. Ero in Toscana per incontrare emissari di Premium, Mediaset Premium, di Sky, della Rai, che dovevano acquisire da me informazioni importantissime. Quindi io vi chiedo scusa perché ero assente, un'assenza che non va bene visti i miei doveri di giornalista, di conduttore, però c'era con me un grande giornalista, un grande amico mio conosciuto in tutta la campagna che può testimoniare tutto ed è disponibile anche a rilasciare qualche intervista, anche perché l'ho già imboccato per bene. Pangrazio, allora devi raccontarla tu questa Ischia Casertana. Mi tocca l'arduo compito di sostituirti, visto che non eri presente. D'altronde ultimamente mi sembra che Ischia non essere presente, sono parecchie persone che si trovano in giro per il mondo per farsi conoscere. Niente, detto questo, comunque l'approccio con la partita è stato sicuramente positivo da parte dell'Ischia, che sembrava nella classica giornata giusta. Poi purtroppo c'è stato l'episodio di Tito che ha finito per condizionale. Io credo che nell'occasione l'arbitro abbia agito con eccessiva superficialità, perché atteso che il rigore poteva anche non esserci, da parte mia dico che c'era il calcio di rigore da dare, però un arbitro che non ha la mania di fare il protagonista a tutti i costi fa una cosa molto semplice: dalla rimessa da fondo campo senza sanzionare con il giallo il giocatore, perché si è trattato di un normale contrasto e non c'erano state neanche chissà quale proteste. Quell'azione comunque ha finito per condizionare la prestazione della squadra, però sarebbe anche un alibi giustificare tutto. Noi tra poco lo vediamo quell'episodio, anche qualcun altro. Sì, tutto con questo episodio. Rischiagaccio, mister Bilardi, potevamo fare qualcosa in più secondo allora, te? Allora innanzitutto Bilardi non ha la bacchetta magica, non poteva fare miracoli. Lui già un mezzo miracolo l'ha fatto nel riuscire a mantenere questi giocatori con la giusta concentrazione dopo le diatribe che ci hanno fatto ridere addosso da tutta la Campania e non solo. Pertanto già questa è una nota di merito che va ascritta a lui nella maniera più assoluta. Credo che la cosa che bisogna tenere in considerazione, che serve anche a far capire poi in buona sostanza sulla bontà dell'organico, e quando parlo della bontà dell'organico non mi riferisco al fatto in sé per sé dei singoli giocatori, che sono sicuramente un lusso per la categoria, ma come sono stati assemblati. Praticamente uno è andato al mercato, doveva fare il minestrone, anziché comprare cetrioli, ravanelli e un po' tutte le cose che servivano, ha comprato una cesta di zucchine, è andato a casa, il minestrone chiaramente non è venuto buono, con tutto il rispetto per le zucchine che sicuramente sono sono un ingrediente importante per fare il minestrone, però non va bene farlo solamente con le zucchine. Basti pensare che l'Ischia, e tutti gli scontri diretti li ha perso tutti quanti. L'Ischia ha vinto solamente con la Casertana e con il Brindisi in gas. Dopo non ha vinto mai uno scontro diretto con nessuno. Significherà anche qualcosa. Noi gli errori macroscopici che abbiamo visto ancora una volta ieri e con i gol che sono stati subiti sono la prova provata del modo approssimativo e come si è operato sul mercato, perché ognuno scimmiotta a ritagliarsi un ruolo, però in sostanza devi avere anche una competenza specifica in materia, perché non è che vai sul mercato, uno ti propina, vai a chiedere un difensore, un esterno basso a sinistra, ti danno un'ala destra, ti infiocchettano quattro aggettivi belli da sentire e poi ti rifilano un pacco, tu te ne vai a casa felice e contento e poco importa che non hai il giocatore giusto. Noi abbiamo subito dei gol che sono veramente ridicoli. Una squadra che ambiva a vincere il campionato può mai prendere i gol che ha preso? Lì ha incassato una caterva di gol, è una cosa. Allora, questo argomento è molto interessante, ritardiamo un istante la Moviola, sentiamo anche il mister Impagliazzo e i Simi su queste problematiche che ha salvato Mangrazio del Camone. Mister, una squadra costruita male, allestita male. Allestita male, non saprei, io ho sempre detto, l'ultima volta che sono venuto qua, che comunque Lischia era una signora squadra. Però devo dire onestamente che è una squadra che ha giocato malissimo per l'intero arco del campionato. Evidentemente chi ha preceduto Ciro e chi ha preceduto Ciro, voi Mandragora, voi Citarelli, evidentemente non hanno dato la giusta fisionomia a quella che doveva essere una squadra di calcio e una squadra che si basava solamente sulle giocate dei singoli, che il più delle volte hanno dato ragione alla causa, però nei momenti topici contro le squadre maggiormente organizzate si sono trovati in enorme difficoltà. Quindi non ci sono carenze strutturali nella rosa? Sì. Si possono comprare 6 o 7 attaccanti, semmai, e poi non stare accolto pure al reparto difensivo e semmai al centrocampo, che sono vitali per, nell'economia del gioco. Chi compra, chi mette mano al portafogli non lo possiamo certamente noi discutere, però sicuramente se io devo costruire la casa la costruisco dalle fondamenta. Poi ognuno di noi può pensare che le fondamenta sia il lastrico e la base sia dall'altro lato. Ecco. Sicuramente sono stati commessi degli errori, ma più errori secondo me di inesperienza e di mania di protagonismo che non errori fatti con volutamente. È stato più inesperienza o protagonismo a far commettere questi errori. Sentiamo anche Ivano. Ivano, una squadra allestita in maniera non proprio impeccabile, secondo Mangrazio Arcamone. Io credo che quest'anno ci fossero tutte le premesse affinché si facesse il salto di categoria e questo ovviamente era l'augurio di tutti noi. Purtroppo io non sono in grado di giudicare la rosa in sé. Credo che comunque l'Ischia avesse i giocatori in grado di poter fare la differenza in qualunque momento. Purtroppo però, come diceva anche il mister Pancrazio, questo non basta per allestire una squadra competitiva. E quindi credo che ci volesse un lavoro molto duro alle spalle affinché si potesse vincere un campionato duro come importante come quello della Serie D. Io credo che i calciatori avevano tutti quanti dei valori molto importanti, però è stato il criterio col quale è stata allestita la squadra e mi ha ricordato un po' l'Inter, ovvero acquisti senza una grande idea di fondo. Basti pensare che anche il reparto under non è stato allestito in chissà quale grande maniera. Tito è diffidato, per 10 giornate non ha preso una ammonizione. Se lo avesse fatto l'Ischia si sarebbe giocata partite anche importanti come con la Casertana, contro la Sarnese, partite che valevano tanto, forse anche il campionato, dovendo stravolgere l'intero assetto tattico per raggiungere l'altro 93. Noi stiamo aspettando ancora l'under dal mercato di gennaio, il 93 dal Genoa che venne promesso. Bene, allora, se possiamo andare alla Moviola, così ci togliamo anche il dubbio, soprattutto su quell'episodio riguardante Fabio Tito, 34esimo minuto di gioco. Vediamo Riccardo Fioretti e Vito Bannava che cosa ci propongono subito. Questa è un'azione dell'Ischia sulla verde, possiamo farla partire in modo che la vediamo e poi la commentiamo con i nostri ospiti, Esindi, Imbagliazzo e Arcamone. Ecco qua, c'è l'Ischia che si propone sulla sinistra, la palla è per Fabio Tito, che la mette in mezzo e questo è il contatto su Marco Mazzeo al centro dell'area di rigore. Vediamo, questa è ovviamente una preghiera alla regia, se riusciamo anche a mostrare magari l'immagine un po' ingrandita oltre che al rallentatore. Eccolo qui, questo è il contatto in aria con il gomito del difensore casertano un po' largo su Mazzeo. Ivano. Ivano da attaccante, però difende la categoria. Io andrei a terra anch'io, però penso che sia abbastanza veniale per assegnare un calcio di rigore. Mister? Assolutamente nulla. Credo che Mazzeo volesse prendere posizione, il difensore era davanti a lui, ha fatto sì che non la prendesse, quindi non c'è assolutamente nulla, anche perché poi la palla passa dalle teste dei due giocatori almeno dei due metri. Pangrazio. No, io penso che non sia assolutamente fallo punibile con la massima punizione. Allora, tutti d'accordo che non ci sono gli estremi per il calcio d'oro in questa circostanza. Andiamo a vedere allora l'episodio successivo, questo è ancora il traversone di Mazzeo. Il gol della Casertana, perché ve lo mostriamo? Perché mister Bilardi lamentava in sala stampa di un infortunio subito da Micallo a centrocampo. Noi con le nostre telecamere purtroppo non siamo in grado di mostrarvi quel momento. Però mister, tatticamente, qui la difesa dell'Ischia Calcio è messa piuttosto male. Ma anche perché la fattispecie Burgos è quello che ha allargato la palla sulla sinistra a Mortellite ed è andato a prendere... Ecco, ha allargato la palla a Mortellite, è andato a prendere posizione nell'area di rigore. Nel momento in cui è andato a prendere posizione bastava che il difensore centrale, che nella fattispecie mi sembra Rainone, scalasse verso di lui e l'altro invece sono rimasto lui e Tito Larghi sull'esterno che alla fin fine non poteva nemmeno arrivargli mai la palla e il gol sarebbe stato evitato. Andiamo allora avanti, adesso ci dovrebbe essere proprio l'episodio di Tito. L'apertura con Tito che è in aria e viene a contatto con il giovane Caldore. Questo è l'episodio. Tito era stato fin qui l'unico ammonito nelle file dell'Ischia Isola Verde. L'arbitro opta per la simulazione e manda Tito a fare la doccia. L'episodio capita 2 minuti dopo il vantaggio della Casertana. Questo è il contatto Caldore-Tito, che dal campo sembrava forse un po' più netto, col braccio un po' largo di Caldore che va un po' a ostruire Tito, però... Probabilmente il cartellino giallo a mio avviso è una sanzione davvero molto eccessiva, poi si può concedere o meno il rigore. Ivano? Sì, sono d'accordo, il contatto come prima penso che sia ci sia, ma insomma non punibile con il calcio di rigore, però l'ammonizione penso che sia assurda e spesso purtroppo capita che gli arbitri vogliano essere protagonisti più dei calciatori e... Quindi penso che sia stato questo il caso. Che poi dall'altro ha creato un nervosismo anche piuttosto forte, perché l'arbitro la partita poi l'ha persa verso la fine del primo tempo. Mister, qui è stato un po' troppo pignolo l'arbitro. Ma sicuramente, forse come diceva Ivano, non è nemmeno calcio di rigore, però penalizzare una squadra che del resto si sta giocando uno spicchio di qualcosa che ti potrebbe forse eventualmente portare a qualcosa, sta perdendo in casa 1-0, tra l'altro il ragazzo, come diceva poi prima Pancrazio, non ha nemmeno protestato, forse ha accentuato la caduta rivedendolo, però non era il caso di dargli la seconda ammonizione a distanza di 5-6 minuti e penalizzare così una squadra dove non gli permetti più di raddrizzare una qualsiasi cosa. Pancrazio, il Comune. Guarda, io dal campo avevo avuto la netta sensazione che fosse addirittura un calcio di rigore, però devo riconoscere che Tito non aveva neanche protestato. Ha dimostrato la sua incredulità quando ha visto che l'arbitro lo sanzionava a prendere le mani. Il fallo di rigore sicuramente non c'è, guardarlo bene adesso devo ammettere che si è trattato di un normale fallo, di una normale azione di gioco, però ci sta che il giocatore sulla corsa perde l'equilibrio per un contatto spalla a spalla normale, no, questo non sta a significare. Tito con la palla ha superato l'avversario, solo che l'ha aspettato volutamente per far andare a terra. Sì, però, perché sulla corsa ha superato l'avversario, vedi? Si è fermato quell'attimino per aspettarlo. Sì. Pertanto comunque il giallo secondo me è eccessivo anche perché siamo alla mezz'ora del primo tempo, vai a penalizzare una squadra con un arbitro intelligente che non ha mania di protagonismo a tutti i costi fa fare la rimessa dal fondo e senza... E invece secondo me questo era un pallo da espulsione. Qui si è limitato al cartellino giallo mostrando probabilmente scarsi attributi per la manata di De Rosa sul volto, mi sembra, di Sorrentino, che era appena entrato in campo. Sì. Qui opta appena per il cartellino giallo, però cerchiamo di capire prima se De Rosa lo prende l'avversario. Vediamo questa immagine se ci aiuta un attimino a comprendere meglio. Sembrerebbe più di sì, però. L'ha preso sicuro perché ho visto, io stavo lì, quasi vicino da dove mi trovavo. E questo, ragazzi, questo è il cartellino giallo. Se qui sanzionavo con il rosso diretto De Rosa, non c'era niente da dire. Invece l'arbitro, perché evidentemente sapeva di avere la coscienza sporca, ha tirato fuori il giallo. Mister? Ma non credo che, io onestamente non credo che, è giusta l'ammonizione, poi se ogni minimo contatto si voglia per forza di cose, cioè andare a far degenerare una partita, l'arbitro già aveva sbagliato precedentemente, forse ammonendo, dando una seconda espulsione avrebbe inviperito ancora maggiormente la tifoseria e la squadra in campo, e quindi ha preferito sicuramente ammonirlo e non andare oltre. Sentiamo anche Emanuele Sindi. Io penso che comunque non è chiarissima l'immagine, però se lo prende da regolamento è rosso. In questo caso penso anch'io che l'arbitro, essendosi accorto di aver sbagliato in precedenza, abbia preferito solamente ammonire il calciatore piuttosto che buttarlo fuori direttamente. Franco, ma secondo te non ha peccato anche vorrei dire quasi di inesperienza De Rossi? La palla l'aveva sul piede giusto, il giocatore stava dietro, non era neanche necessario ricorrere ad un fallo per cercare di vincolarsi, perché ormai è andata vista in vantaggio. Ma guarda che nel giro di 2-3 minuti dopo l'espulsione di Tito ci sono state 2-3 ammonizioni uno dietro all'altro, un paio di giocatori della Casertana e questo fallo di De Rosa. La partita stava in quel momento degenerando, ognuno cercava di farsi giustizia da sé. Sicuramente in questi frangenti poi non è che l'esperienza, specialmente poi a fine maggio, con il caldo, con il caldo sono qui ma la mente mia non c'è, ragazzi. Allora, questa espressione di Pangrazio Arcamore, insomma, mi fa introdurre un nuovo argomento, perché Pangrazio, lo dicevo anche prima, l'Ischia psicologicamente mi è sembrata meno motivata della Casertana. Sì, io ho avuto questa sensazione dopo i primi 30 minuti, ripeto, ho cercato disperatamente di trovare delle scuse plausibili, proprio perché non volevo credere a quello che stavo vedendo. Vedevo una squadra effettivamente, non dico supponente perché non credo a ciò, però una squadra quasi svogliata. Io evidentemente influiscono anche sulla psiche dei giocatori le diatribe che vengono a crearsi, perché mi risulta che ultimamente non è che avevano goduto del massimo dei conforti, non vorrei sbagliare, mi sembra addirittura che a livello di alloggio non stessero le cose proprio come tutti quanti pensavano, il giocatore andare avanti e indietro così. Poi sai come ha detto Frank, che se lui è da vecchia volpe dei campi di gioco, sa benissimo che quando la stagione è finita, i giocatori a un certo punto anche si staccano mentalmente dalla cosa, perché tenuto conto tra le altre che i play-off sono una cosa fino a se stessa, un atto formale solo per riempire un vuoto lasciato dalla federazione, pertanto sai, i calciatori non metti questo, quello e quello, tante cose insieme, i giocatori non perdono la giusta concentrazione. Ci hanno fatto anche un altro episodio da Moione, nel frattempo un fallo non sanzionato su Mazzeo, che è stato, eccolo qui, praticamente affossato da Burgos, che lo tira vistosamente per la maglietta. Sì. Però volevo chiedere anche se al mister, in Pagliazzo, se lui ha notato un'Ischia poco concentrata, psicologicamente poco. Guarda, io determinata. No, al di là, io ho detto inizialmente che l'Ischia la prima mezz'ora stava facendo meglio della Casertana, almeno come voglio. Però noi dobbiamo premettere che l'Ischia, dopo la partita col Matera, in casa aveva giocato una sola volta contro il Gaeta, tra l'altro già retrocesso e c'erano pochissimi spettatori. Oggi di giocare al Mazzella, avendo pure 600-700 spettatori come quelli di ieri, perché non credo che ce ne fossero più di tanti, 700-800 persone al massimo ci potevano essere, non risultava facile fare una partita al cospetto di tifosi che comunque 150 hanno incitato, ma 550 erano delusi dell'andamento del campionato. Perdere dopo 30 minuti, vedersi un compagno espellere, ha fatto sì che a qualche giocatore pure più esperto, essendo a maggio, questo volevo riferirmi prima, puoi perdere la testa. Però già non era facile inizialmente fare una partita L'Ischia per vincere la partita ieri aveva solo la fortuna di fare gol nei primi minuti, uno o due gol, e allora sull'entusiasmo trascinavano il pubblico e il pubblico trascinava la squadra, ma altrimenti rimaneva difficile sicuramente. Nell'occhio del ciclone mister c'è finito anche Ciro Bilardi, perché il gol di Pastore è arrivato con Rainone fuori, era in panchina per un infortunio e dalla tribuna qualcuno ha detto però il mister l'ha cambiato. Io penso un'altra cosa, ma in tutte queste cose non ci voglio entrare. Io penso che, come ho detto inizialmente, a Ciro la società, i tifosi, chi per esso lo deve solo ringraziare, perché nessun pazzo l'ultimo mese avrebbe preso l'Ischia in mano, nessun pazzo. Se fossero venuti da me gli avrei chiesto prima un contratto per l'anno successivo e poi dico me le faccio queste quattro partite. Però sicuramente nessuno avrebbe accettato la situazione dell'Ischia con il casino, scusatemi il termine, che c'era in quel momento a Ischia. Pangrazio Arcamone, sulla sostituzione un po' ritardata di Rainone? Ma guarda, in quei momenti pure io mi sono chiesto come mai, però sai, se tu già hai dei problemi in ordine proprio al ruolo e hai un giocatore che i sanitari ti dicono che è recuperabile, più che fare degli accorgimenti tattici, semmai spostando un giocatore momentaneamente nel ruolo, non puoi fare, perché se poi vuoi sostituire immediatamente una persona che presenta un infortunio che va più in là dai canonici 30 secondi, tempo necessario che entri il massaggiatore per buttarti un po' di acqua addosso, insomma la partita, da tutte le partite le sostituzioni avverrebbero nei primi 10 minuti. Credo che Bilardi non abbia colpe e tra le altre cose, come giustamente ha detto Franco, trovo assolutamente ingeneroso, fuori luogo e la contestazione a lui, perché Ciro Bilardi ha fatto il massimo che si poteva fare. Non ci dimentichiamo che ha vinto tre partite, ne ha pareggiato uno, certo ha perso una partita importantissima come quella di ieri, ma l'ha perso contro la Casertana, non l'ha perso contro l'ultima arrivata, ha perso la partita contro una squadra di alta classifica, come avevano perso tutte le partite gli altri allenatori che si erano succeduti contro le squadre di alta classifica, segno evidente di un di quello, quando ho detto prima, praticamente una squadra costruita con i piedi. Però vorrei precisare, perché forse non sono stato capito bene, io non faccio nella maniera più assoluta riferimento alla qualità dei singoli, io parlo proprio di assemblaggio di un organico fatto con tantissime prime donne, tanti ottimi calciatori, però secondo me che non si sposavano bene tra di loro. Inoltre un encomio va fatto ai tifosi, ancora una volta ieri hanno raccogliendo l'invito fatto loro da Bilardi venerdì scorso, hanno risposto come sempre con Fumoggi, hanno fatto Baldori, hanno cercato di incitare la squadra. Certo quelli più freddi che stanno al lato di sopra sono notoriamente poco incline a lasciarsi andare a incitamenti, se non in momenti sporadici, semmai in occasione di un gol o di una bella azione o qualche altra cosa. Però per quanto riguarda lo zoccolo duro della tifoseria va elogiato in blocco, pur non avendo avuto le scuse che loro chiedevano in merito ai noti fatti che sono successi dopo la partita di Sardegna, per le contumeli, per le offese gratuite che sono state loro rivolte. Questa è un'altra nota di merito che va data ai tifosi, perché hanno messo da parte l'orgoglio per una causa che loro ritenevano giusta. Ci guardiamo anche le pagelle assieme e poi torniamo di nuovo qui col commento di A Bordo Campo. Voto 5 per Davide Trofa, travolto anche lui nella domenica nerissima dell'Ischia Calcio. Nonostante la buona volontà, si fa apprezzare solo ad inizio ripresa, quando va via sulla destra di forza e serve una palla d'oro a Manzo, il cui colpo di testa viene respinto da Roncone. Dopo un'annata vissuta sempre da migliore in campo, e tra i meno responsabili del grande fallimento Ischia Calcio. Voto 5 per Marco Mazzeo. Non punge mai, in zona gol non si vede mai, anche perché il centrocampo supporta poco e male il reparto offensivo, ma a differenza di alcuni suoi compagni ci mette almeno la buona volontà. 3. Arrestatemi! Voto 4 per Ausillo e Manzo. Irriconoscibili, vagano per il campo senza mai incidere nella manovra ischitana. Manzo si rende pericoloso solo con un colpo di testa. Col senno del poi è stato un errore mandarli in campo. Voto 4 al direttore di gara, il signor Bertani da Pisa. Sventola incomprensibilmente il secondo giallo sul volto di Tito, dopo il contatto in aria con Caldore. La mancata concessione del rigore sarebbe stata una decisione già dubbia. Figuriamoci poi l'espulsione in quel momento così delicato della gara. Non espelle De Rosa successivamente, nonostante la manata sul volto dell'avversario. Perde la partita di mano verso la fine del primo tempo. Voto 4 per la condizione atletica dell'Ischia Calcio. In campo era notevole la differenza tra le due squadre. La Casertana correva, l'Ischia camminava. Ho avuto la sensazione che la squadra di Bilardi avesse circa 20 minuti, non di più, nelle gambe. Passeggiando da piazza, la discesa di Piazza degli Eroi, dove stanno i Giasi, e mi sono fatto tutta la discesa a piedi per digerire, perché al Barcalise, in Piazza degli Eroi, non quello del Porto, ecco, o quello di casa mia, mangiai una pizza, diciamo mangiai, mi offrirono, offrirono una pizzetta, apparato, e mi sono aggiustato un po' lo stomaco, con una frolla, un caffè, una pizzetta. Ah, mangiano un pazzo, non mangiate niente. Un caffè e un limoncello. E un limoncello. Dopo che ho visto la partita della Juve, invece di andare a dormire, decisi di passeggiare un po'. Capisce, ma bene. Allora. Nello scendere Piazza degli Eroi, incontro una donna. Ah, una donna? Una. Ma questa donna era un poco molto... Era un poco molto... fredda, vai, diciamo. Fredda. Dopo che ha visto la divisa dell'Ischia... E tu ce la ci saprei... Il mio vestito grigio, ma al lato destro... dove c'ho il mio distintivo dell'Ischia. Al lato destro e sinistro. Sinistro. Ma ci si fa, c'è la lista frecca che c'è Steve. Avendo lo stemma dell'Ischia, lo porto, andiamo verso sul porto. C'è ti, no madame, madame Moise, chauffeur de moi, is crise si batti neu, you know you like my yes. Siete, ma tu, ma... No, ma tu c'è, dici se vuoi portare un ciuccio fuori dalla stalla o no? Lei disse, ma tu parli italiano? A me mi pare tu non normale, ma pare tu c'è. E tale quale, chi non l'aveva ragione? Mitico maresciallo Scarpati, che è stato un po' il simbolo di questa stagione purtroppo poco fortunata. Dobbiamo andare in pubblicità, ci vediamo però in maniera molto rapida. Le pagelle sono voti bassissimi, 4, 4 e mezzo, 5 solo, non perché abbiano combinato chissà che cosa, ma più che altro perché hanno mostrato un po' di buona volontà. 5 anche a Tito, perché fin quando lui è stato in campo, l'Ischia grosso modo è stata la parte migliore dell'Ischia Isola Verde. Poi dopo l'uscita di Tito c'è stato il grande patatrac, e tra l'altro Sabbia e Piscopo l'hanno sofferto molto di più di Matera. Queste valutazioni, ovviamente voti molto negativi, 4 anche a Piscopo, senza voto Saurino e Salli. Pubblicità e poi torniamo qui per analizzare altre tematiche, sempre dell'Ischia Calcio, e poi c'è il forio di Evano Isini. L'isola di Ischia, c'è un comune virtuoso nella raccolta della differenziata. È il comune di Ischia, che da 3 anni ha cambiato marcia. Il territorio ora è pulito. Le emergenze non fanno più soffrire i cittadini. La tassa sui rifiuti dal 2007 non è stata mai aumentata. La raccolta differenziata ha raggiunto medie invidiabili. Ben il 55% annuo. L'amministrazione del comune di Ischia soddisfatta ringrazia l'azienda, i suoi dipendenti, ma soprattutto i cittadini per la costante e matura collaborazione. Ma per il futuro c'è un obiettivo ancora più ambizioso: ridurre la tassa rifiuti per tutti, con piccoli sforzi, migliorando ancora la raccolta differenziata. Questo sogno può divenire realtà. Da un'idea di Pino Buono, Buono Pubblicità, dal 1962, la pubblicità sull'isola d'Ischia. Il nuoto, lo sport più completo. L'Ischia Nuoto ti attende alla piscina comunale di Ischia ogni mercoledì e venerdì. Con l'Ischia Nuoto troverai insegnanti esperti per nuoto per bambini, nuoto agonistico, nuoto per adulti e la tonificante ginnastica in acqua. Il mercoledì e venerdì il tuo appuntamento con lo sport è con l'Ischia Nuoto. Da noi puoi conseguire il brevetto per bagnino di salvataggio. L'Ischia Nuoto, per lo sport, per la salute. Da oltre mezzo secolo lavoriamo con dedizione ai vostri momenti che contano, quasi come fossero un po' anche i nostri, cercando di migliorare continuamente. E giorno dopo giorno siamo sempre più convinti che è la cura del particolare a rendere unica un'occasione. Per questo, più che affidarvi al caso, fidatevi di noi. Sorriso Terme e Resort. Il piacere di festeggiarvi. Una grande squadra ha bisogno di un grande pubblico. L'Ischia Isola Verde quest'anno punta in alto. Diventa un sostenitore del progetto giallo-blu. Un grande pubblico per una grande squadra, per una stagione indimenticabile. Siamo tornati in studio col commento di Abbordocampo. Abbiamo visto la moviola, le pagelle, la sintesi di Ischia Casertano, una gara molto sfortunata per i colori giallo-blu. A mister Impagliazzo volevo chiedere anche una valutazione su un collega, Giovanni Ferraro, accostato nei giorni scorsi all'Ischia Calcio, perché Lello Carlino è molto interessato all'attuale tecnico casertana. Ma se Carlino è interessato a Ferraro bisogna chiedere a Carlino. Io non lo conosco poco, ho avuto modo di vederlo, di incontrarlo 3-4 anni fa quando giocavamo una partita di Coppa Italia col Vicequense, e poi l'ho visto quest'anno qua di nuovo a Ischia, però non ho mai visto, ho avuto modo di vederlo gli altri anni. Però vedo che sistematicamente deve essere un allenatore preparato, perché grosso modo prende sempre grandi squadre, e poi prendere grandi squadre e fare grandi risultati non è tanto difficile. Pangrazio Ercavone, Ferraro potrebbe essere il mister giusto per l'Ischia Calcio? Poi sentiamo anche Vano Isidi. Ma potrebbe, il condizionale è d'obbligo, bisogna vedere poi alla fine cosa mette a disposizione. Io comunque sono sempre dell'avviso che bisogna tenere in debita considerazione il prodotto locale. Io sono un convinto stimatore della gente di Ischia, dei giocatori di Ischia e dei tecnici di Ischia. Io penso che c'è solo l'imbarazzo della scelta. L'anno scorso è stato depauperato un patrimonio a 360 gradi per il gusto di non avere gente del posto in squadra, per esautorare tutti quelli che erano del posto. Certamente io mi rendo perfettamente conto che i conquistatori usavano tagliare la testa a tutti quelli che si paravano davanti, però sa com'è, a Ischia noi avremmo potuto mettere a disposizione dell'Ischia il fioffio di giocatori, uno come Monti, grida ancora vendetta, che è stato mandato via, lo stesso Impagliazzo e tant'altro. Poi come allenatore, giusto per non fare il ruffiano, perché ho vicino a me una persona che ho sempre stimato e ammirato, e da calciatore e da giocatore, ricordo quando hai esordito, che era un bamboccio piccolissimo, dico solo una cosa: che ci sono quattro ottimi allenatori, Impagliazzo, Monti, Bilardi e lo stesso Tommaso Angrisano. Pertanto, prima di andare a spaziare in lungo e in largo nel firmamento calcistico, incominciamo a guardare le qualità di quelle che abbiamo sul posto, che sono in grado innanzitutto di capire gli umori della piazza, gli umori della gente, di assecondare anche e quelle che sono le ambizioni e le aspirazioni. E poi dopo, semmai, se vediamo che non ci sono gli elementi per poter cominciare un progetto con Genda Dischi, allora poi andiamo a pensare a Ferrara, a questa, a quella e a quell'altra. Però lo stesso Ferrara, di cui io non mi permetto assolutamente di discutere, perché l'ho visto qualche volta, per carità, però ti posso garantire che quando l'abbiamo vista a Caserta e tu c'eri, abbiamo visto una squadra che era decisamente poco convincente. Un po' confusionario, per cui sempre lui era l'allenatore, se ha la bacchetta magica. Senti, ragazzi, io sono d'accordo con te, anch'io stimo Ferraro, però punterei su un allenatore ischitano, e non solo per le grandi capacità di mister Taratao, di mister Billone oppure degli altri nomi che tu hai fatto, ma anche perché prendere un allenatore ischitano in questo momento storico vorrebbe dire dare un forte segno di rottura con un passato che a noi qua non è piaciuto proprio. Ma nella maniera più assoluta, qua non è piaciuto niente quest'anno, è inutile che ci giriamo intorno, noi ci siamo fatti ridicolizzare, ridere addosso tutta la campagna per tutta una serie di cose che sono successe. All'inizio c'era tanto entusiasmo che è andato via via scemando, sono stati pochi quelli che sono rimasti agganciati al carrozzone, mentre tutti quanti gli altri si sono, mano a mano che hanno preso coscienza di quelli che erano effettivamente programmi e modi di agire, si sono distaccati. Io credo che la cosa fondamentale proprio per ottenere dei buoni risultati sia quella di presentarsi con garbo, con signorilità, con disponibilità verso gli altri, non creare tutta questa serie di situazioni che si sono venute a creare quest'anno. Pertanto, innanzitutto, a me piace sempre parlare in modo diretto, franco, perché la cosa migliore da farsi è questa, perché è inutile che giriamo intorno in modo ipocrita. Io credo che la prima testa che dovrebbe cadere è quella del direttore generale, perché se Lisca ha fallito, perché noi parliamo di fallimento, è inutile che ci prendiamo in giro. Questa era una squadra che fino a dicembre si era partito con un programma triennale, a dicembre si è rivoluzionato tutto spendendo fior di quattrini per acquistare sei calciatori perché si voleva puntare a vincere il campionato, un direttore generale che ha depauperato qualcosa che si è avvicinato molto al milione di euro per vincere il fumo e basta, ha fallito e dovrebbe farsi da parte. Io dico una cosa che probabilmente a qualcuno non piacerà, però a me piace molto dirlo in questo momento: la società dei morti di fame, la società che ricorreva alle collette, la società che non aveva mezzi per poter andare avanti e che spesso e volentieri era capeggiata da Enrico Scotti oppure da quel galantuomo di Antonio Barile o qualcun altro, con i soldi che sono stati spesi quest'anno disputavano quattro campionati, non uno solo, quattro. Allora, ho visto che quando Van Grazia al Cavone parlava di prodotto ischitano depauperato, Ivano Esindi annuiva. Ivano, ti do la parola subito per sentire anche il tuo parere, anche tu sei un prodotto Ischia, ma anche perché ho visto ci stanno fan da casa che ti stanno fotografando, stanno aggiungendo foto su Facebook, quindi li voglio accontentare, dai. D'accordissimo con Pancrazio, sia per quanto riguarda il discorso dei calciatori, sia per quello degli allenatori. Io penso che purtroppo è un vizio prima italiano e poi ischitano quello di salvaguardare poco il prodotto locale e di cercare sempre qualcosa in più sulla terraferma per quanto riguarda Ischia e all'estero per quanto riguarda l'Italia. Però credo che a Ischia ci fossero lo stesso, Pancrazio diceva il nome di un pagliazzo, credo che fosse Andrea, insomma un ragazzo che comunque è il 92, che è cresciuto tantissimo e che credo che potesse servire tantissimo quest'anno all'Ischia, che purtroppo... Sì, per un motivo per là, comunque un campionato di Serie D è andato a fare. Tra l'altro l'Ischia ha quasi un debito con il Pagliazzo perché segnò quel gol importantissimo che ci ha permesso di E anche sul discorso economico credo che in passato con pochi mezzi siano state fatte grandissime cose, come la salvezza appunto insperata nello spareggio con la Sibilla. No, ma io rispetto le idee e le opinioni di tutti quanti, no? Però la mia personalmente è che se noi dobbiamo essere continuamente offesi, maltrattati, denigrati come prodotto ischitano, allora così non va bene. I soldi di Croia teneteveli per voi, noi che forse abbiamo prima categoria, va bene anche la prima categoria, può essere che in questo stato di cose no, comprendiamo qua, scusami, qua dobbiamo convenire un attimino in un discorso. Che l'Ischia in un modo o in un altro non esiste da oggi, non esiste dal primo di settembre di quest'anno, ma esiste dal 1926, se non vado errato. 22 Pancrazio. Pancrazio ci tiene molto. Ha ragione, esiste dal 1922. Prima che giocassi io hanno giocato tantissimi altri giocatori e l'hanno fatto sempre con grandissima dignità. Abbiamo cercato di portare il nome di questa società per il centro meridione il più in alto possibile e l'abbiamo fatto con dignità, dormendo anche sui sacchi delle navi, però nessuno ci ha mai potuto dire voi non avete fatto questo, non avete fatto quello. Abbiamo fatto il calcio sempre con la colletta, l'ho sempre detto pure qualche altra volta, io ero ragazzino, assistevo a Piazza Croce, c'era Filippo Ferradino che assisteva all'estivo, all'Ischia e Isola Verde, si cercavano le 50 lire dell'epoca per fare calcio, però l'Ischia è sempre sopravvissuto. Sicuramente noi non abbiamo l'anello al naso, qualcuno deve venirci a dire siete quelli della colletta, l'anno prossimo ci saremo, non ci saremo, ti farete la colletta, queste sono cose che lascio nel tempo controllo. Io le apprezzo questi perché hanno fatto sì che quest'anno veramente la squadra non ha potuto soffrire per certi versi a livello economico, però poi dopo non bisogna offendere l'intelligenza delle persone che vengono a vedere la partita, perché l'Ischia mai come quest'anno, io ho assistito quasi anche a tutte le partite in trasferta, ci siamo trovati spesso con Pancrazio, ci siamo sobbarcati 600, 700, 800 chilometri e se non è venuto il risultato non è venuto perché Pancrazio tirava i piedi, Impantaratà tirava il piede, Enrico Scotti tirava il piede, se non era venuto il risultato perché avevate qualche mancanza a livello organizzativo, voi tattico, voi di società, e non potete andare a offendere l'intelligenza delle persone che si sobbarcano un viaggio o vi vengono ad incitare durante l'arco dell'anno, o poi tutti quanti dobbiamo tenere l'anello al naso e dire sì, state facendo bene, state facendo bene. Anche perché, mister, se si fosse accolto, analizzato un 30%, non dico tanto, delle osservazioni fatte durante l'anno, probabilmente le cose potevano andare anche in un modo diverso. Io ricordo una trasmissione fatta qui il 9 gennaio, dopo Martina Franca. No, io ti ripeto, io questo me lo voglio augurare, sì, mi ricordo perfettamente perché l'ho seguita. Io ricordo anche i commenti. Tra l'altro era anche in un periodo che non stavo nemmeno tanto bene a livello fisico e comunque ho avuto modo di seguirla, l'Ischia. Ripeto, ci sono stati dei momenti che veramente si è degenerato sulle disquisizioni fatte a riguardo di alcuni personaggi, tra cui uno di questi era anche io. E questo me ne sono molto rammaricato perché ho cercato veramente di essere estraneo alla cosa e qualche volta si è andato oltre quello che erano le cose. Però ripeto, noi il calcio quando l'abbiamo fatto con dignità. Se poi la nostra dignità deve essere calpestata solo perché per il semplice fatto che qualcuno viene a dire vi facciamo o non ve lo facciamo vedere sto calcio, sicuramente l'Ischia non morirà, in un modo o in un altro, ci saranno quelli della colletta, ma anziché portare 2000 persone al campo ne porteranno 1200, 1300, li faranno di nuovo innamorare, ma il calcio sicuramente non morirà. Bene. Io dico un'altra prego, cosa aggiungo a quello che ha detto Impagliazza. Io dico che forse saranno 1200, 1500, non lo so quando saranno, ma di certo non si vivrà la tensione e il clima avvelenato che c'è stato quest'anno. Io vorrei ricordare anche a chi di dovere che da queste parti, su questo scoglio, c'è stata una squadra che come attualmente si chiama Ischia Isola Verde, che ha disputato la bellezza di una quindicina, se non di più, anni di serie professionista, che si è classificata al quinto posto in C1. Pertanto, prima che sbarcavano quelli che io amo definire come a qualcuno non piace, voglio ricordare che il calcio si è fatto a grandissimi livelli, ma il clima attuale non si è mai vissuto, mai, perché però ognuno, anche quando sono venute le persone, una persona dalla terra, mai, però tanta dignità. Io in casa mia, caro Franco, ma qua hanno giocato i fior di giocatori, gente che veniva dalla sera a tavola, di tutto e di più, ma c'è stato il letame sul nostro viso, non è stato mai sbattuto da nessuno. Pertanto certa gente deve fare la cortesia, deve alzare i tacchi e girare a trovare nuovi orizzonti. Perché noi va bene Carlino, va bene tutto quello che vogliono loro. Tornando, se anche qui ci sarebbe da fare un discorso lunghissimo, perché come ho detto anche lo scorso martedì, mi piacerebbe capire per quale motivo Bruno Basentini non ha potuto avere la struttura di fondo bosse e Carlino sì, va bene, prendo atto, saranno cambiate le cose. Ne parliamo tra un istante del futuro. Va bene Carlino, però bisogna tenere in debita considerazione tutte le cose che sono successe, perché di questo passo non si può continuare avanti. Noi abbiamo tenuto gente come Roberto Fiore, come Goveano, come chi più ne ha più ne mette, hanno usato sempre il massimo del rispetto verso gli abitanti di questa scuola, verso gli amanti della Dea Eupalla. Pertanto non è che è venuto quest'anno, tra le altre cose, quello che io definisco sempre un dipendente, si è comportato in un certo modo e ha creato tutti i dissapori e le frizioni che ha creato. Questo assolutamente non ci va bene. Allora, facciamo una piccola pausa, ci guardiamo l'intervista a Giovanni Ferraro, però poi torniamo a parlare di Ischia Calcio, di queste tematiche che sono molto interessanti. Festa casertana, la squadra di Giovanni Ferraro alla mia sinistra vince 4-0 allo stadio Mazzella, un risultato mister rotondo, un risultato pieno che rende merito alla sua casertana. Sì, diciamo un risultato pieno soprattutto per come abbiamo preparato la gara, siamo stati bravi ad abbassarci e a ripartire, perché conoscendo i calciatori con quelle caratteristiche importanti tra Manzo, Sarli, lo stesso Ausiello, Trofa, giocatori che attaccavano sempre la profondità, provato la partita abbassandoci nell'area difensiva e poi ripartire. Diciamo, i ragazzi sono stati bravi per quello che ha messo in atto, e penso che oggi la Casertana è qui, penso che abbiamo ereditato questa vittoria. E... bravi soprattutto nel momento giusto, possiamo parlare di Casertana cinica quest'oggi? Sì, noi abbiamo una caratteristica importante, abbiamo le ripartenze, abbiamo giocatori che forse nello spazio sono devastanti, e soprattutto bisogna essere una squadra equilibrata. Io all'andata, proprio qui il giorno di andata, vidi Ischia Casertana e vidi una Casertana troppo sfilacciata tra i reparti. Ora, pensando un po' a quella partita, io diciamo ho preso degli spunti da quella partita, di trovare una squadra accorta, di non lasciare troppo spazio a giocatori come Manzo, perché penso che nelle linee che quando prende la palla poi diventa devastante. Ho pensato di stare corti e poi ripartire. I ragazzi sono stati bravi proprio a fare quello che ho chiesto in settimana, l'abbiamo guardato bene, ci tenevamo ad andare avanti, perché penso che alla fine questi playoff è una vetrina importante, io come allenatore e tutti i calciatori, bisogna dare la giusta importanza. Ecco, farei discutere molto, mister, quell'episodio avvenuto al 34esimo del primo tempo, ovvero appena due minuti dopo il gol di Burgos, contatto in aria tra Caldore e Tito, il direttore di gara estrae il secondo giallo e manda Tito a fare la doccia. Lei dalla panchina che sensazione ha avuto? Guardi, onestamente a me non mi piace mai commentare l'operato dell'arbitro, nel senso che l'arbitro si è visto così, penso che ha fatto la sua valutazione, non mi piace né quando né a favore né contro, penso che gli arbitri è una parte integrante di una partita di calcio, penso a volte sia riduttivo per pensare un episodio in 90 minuti di poter condizionare una gara. A mio avviso la differenza quest'oggi l'ha fatta anche la condizione atletica, sbaglio se ho visto una Casertana molto più in palla dell'Ischia? Sì, diciamo che noi stiamo lavorando da un po', soprattutto per migliorare la nostra condizione atletica, che forse è stato l'unico neo quando sei venuto a Caserta in una condizione fisica precaria. Però sono tutti i ragazzi, perché hanno voglia, hanno testa, hanno voglia di restare, hanno voglia di indossare questa maglia, hanno voglia di sacrificarsi, che poi se uno di alla fine pensa che i playoff tutti quanti lo dicono che non servono a niente, se uno non ci va con quello spirito giusto, alla fine davvero i calciatori non vedono l'ora di andare a casa. Invece credo che da parte di un allenatore, da parte dei calciatori, più tempo si sta sul campo e meglio è, perché alla fine ogni settimana siamo giudicati. Oggi siamo qui a Ischia, dove ci stava un bel pubblico, ha visto la squadra di giocare, penso diversi operatori di mercato, dove qualsiasi di noi può cercare un contratto per l'anno prossimo, oppure può restare nella Casertana, e soprattutto che è pronto ad affrontare campionati importanti. Però prima, mister, parleremo anche di futuro, però prima bisognerà pensare alla prossima gara playoff a Sarno. Sì, ma certamente adesso affrontiamo la Sarnese, dove è uscita sconfitta dopo lo secondo di Martino, però visto che i ragazzi hanno fatto una vittoria importante, forse tutti quanti ci pensavamo che la Sarnese non passasse il turno perché pensava ancora alla sconfitta domenica, invece credo che alla fine ci hanno voglia, ci hanno gambe, loro anche loro hanno due risultati, la Casertana come ha fatto oggi qui a Ischia deve pensare di battere la Sarnese per continuare questo sogno. Lello Carlino, probabile prossimo presidente dell'Ischia Calcio, non ha nascosto la sua stima verso Giovanni Ferraro. Quest'oggi vi siete salutati, vi siete parlati? Sì, l'ho salutato prima della gara, gli ho dato la mano, che non lo conoscevo proprio fisicamente, me l'ha presentato il direttore Crisano. Penso che i complimenti, soprattutto sul lavoro che uno svolge e riceve da un presidente o da un direttore, fanno piacere a tutti quanti, perché alla fine, al di là dell'aspetto economico, penso che l'amore di questo lavoro va al di là di tutti gli aspetti. Mister Ferraro allenerebbe con piacere sull'Isola d'Ischia, parliamo ovviamente di fantacalcio. No, diciamo che in questo momento pensiamo alla Casertana, pensare al futuro della Casertana, di capire dove possiamo arrivare. Poi per quanto riguarda il futuro, quando finiscono tutti i campionati, che la Casertana vediamo di arrivare alla finale di playoff, poi dopo un po', dopo una settimana di riposo, si parla del futuro. Prego. Abbiamo ascoltato il tecnico della Casertana, Giovanni Ferraro. Nella Casertana mi sono piaciuti molto Burgos, Ginobili, anche Madiela, che ha fatto un buon lavoro di copertura e di Matera. Però io tornerei all'Ischia Calcio, perché mentre guardavamo l'intervista a Ferraro è arrivato anche un contributo da casa ed è un commento qualificato, perché è di Gaetano Musella, ex calciatore dell'Ischia Calcio, che ieri ha fatto gol nel Forio. Secondo me, si inserisce la discussione che facciamo qualche istante fa con Pangrazio Arcamone e Mister Impagliazzo, secondo me dovrebbero prendere Taratà, è uno che non soffre l'ambiente ed è del posto, poi unico nel trasmettere fiducia e tranquillità ai calciatori, e poi non è un falso, ama la maglia dell'Ischia come pochi. Il commento di Gaetano Musella, che aggiunge la sua opinione a quanto stavamo dicendo prima. Però io ridò la parola a Mister Impagliazzo, perché mister, l'ho ascoltata sul concetto di dignità, di grande semplicità col quale è stata portata l'Ischia avanti dal 22 fino a oggi. Però c'è poi l'altro aspetto che sottolineava Pangrazio Arcamone, di dire tanti giovani ischitani bravi come Biglioncino Monti, Peppe Mattera, i primi che mi vengono in mente, essere allontanati, non avere la possibilità di esprimersi sulla propria isola. Io dico, anzi, che nel corso dell'anno si è andati oltre, perché al di là dei giocatori è stato coinvolto anche Pasquale Calise, per dire, che faceva il massaggiatore, quindi c'è stato proprio un criterio anti-ischitano come modalità di gestione dell'Ischia Calcio 2011-2012. Mattera ormai era andato via già da qualche anno, andò via l'anno dopo i playoff, perché giustamente, perché per il fatto delle collette non sapevamo, lui era svincolato, non sapevamo ancora quando ci iscrivevamo al campionato, e il pianura piombò sul giocatore e lo portò via. Con Monti mi sembra che siano successe delle diatribe l'anno scorso. Poi qualcun altro è rimasto, i vari Trofa, Savio e Saurino, Trofa e Saurino che avevo portato io e Savio che avevo portato Billone, padre. Questi sono gli ultimi giocatori che sono rimasti a Ischia. Pasquale Calise è andato via perché frequentava Franco Impagliazzo. Sì, lo abbiamo raccontato in maniera piuttosto fedele qui nelle nostre trasmissioni. Ricordo proprio un intervento di Pangrazio Arcamone che raccontò perfettamente. Ma a me così mi è stato riferito, perché una volta passeggiando per strada dice: ma come hai fatto a cacciare Pasquale Calise? Io venivo dall'ospedale. Ma cosa ha fatto Mister Impagliazzo all'Ischia Calcio? Perché mister, qualcuno dell'Ischia quando sente il suo nome dà di testa, cioè non... Ah, questo non lo so, di aver fatto 550 partite, 133 gol, non aver percepito mai una lira e vantare un sacco di soldi, questo per certo. Allora, noi guardiamo il prossimo contributo filmato, perché ci riporta un po' la partita di domenica. È la clip che ci fa vedere le dichiarazioni del direttore generale dell'Ischia Calcio, Nicola Crisano, rilasciata una testata, e Crisano individua la responsabilità della brutta sconfitta dell'Ischia Calcio nella direzione di gara, nell'arbitraggio, un arbitraggio che non arriva per caso a Ischia, ma che è collegato a delle problematiche del passato, delle condotte societarie che ancora oggi creano danni all'Ischia Calcio. Vediamo. E il coccodrillo! Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punta, che molto spesso pianga, però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che... Sorseggia camomilla e mezzo addormentato se ne va. Allora, io do subito la parola a Pangrazio Arcaone. Pangrazio, un arbitraggio che offende l'Ischia Calcio perché ci sono 10 anni di problematiche societarie e che ancora sta pagando la squadra gialloblu. Questo è il pensiero del DG. Sì, sì, purtroppo cosa vuoi che dica? Pangrazio, vai piano che papà sta sentendo. No, no, appunto, perché non vogliamo dare dispiaceri ai genitori dei fanciulli viziati. È una roba che non sta né in cielo né in terra. Innanzitutto è una mancanza di riguardo nei confronti di chi ha fatto con grandissima dignità, come abbiamo detto poc'anzi, e che ha portato con grandissima dignità il discorso avanti tra mille difficoltà. Inoltre non ho capito che ci azzecca, per dirla da Di Pietro, nella fattispecie un'uscita così infelice. Non credo che l'Ischia si sia macchiata, per quanto ci riguarda le vecchie società si siano macchiate di chissà quali e quali nefandezze da essere perseguite dalla Lega in modo tale da far perdere il campionato. Io credo che siano sempre come al solito delle scuse accampate da chi, non avendo argomenti per poter spiegare il proprio fallimento, cerca di trovare sempre delle pezze d'appoggio per scaricare su altri le sue responsabilità. È una caduta di stile, ma non dovrei neanche parlare di caduta di stile, in quanto chi è che non ha stile difficilmente lo può perdere. Allora, mister Impagliazzo, addirittura un arbitraggio che va contro l'Ischia non arbitra bene perché ci sono 10 anni di problematiche derivanti dal passato, il che, se vogliamo, è anche un po' in contraddizione con la rinnovata credibilità della società, tanto sbandierata durante i mesi invernali, che aveva conquistato l'Ischia in quest'anno. Ma è difficile spiegare determinate cose, perché a volte non si vogliono ammettere degli errori sono stati commessi, dicevo all'inizio della trasmissione, forse in buona fede, forse per protagonismo, ma gli errori sono stati commessi, e il fallimento di questo campionato, da questo fallimento, se eventualmente ci sarà un prosieguo, bisogna prenderne altro atto e cercare di correggere quelli che sono stati gli errori di pacchianità fatti quest'anno. Sì, io sono d'accordo. L'altro, la cosa che dà ancora più sui nervi è che qualcuno da qualche settimana a questa parte sta cercando solo di salvaguardare la propria persona, fregandosene altamente dell'Ischia Calcio. Ma se mister Impagliazzo dovesse individuare i responsabili di questo fallimento, che mi sembra abbastanza netto, abbastanza totale, come dividerebbe le colpe e le varie responsabilità? Le colpe, io ho sempre detto che in allenatore i meriti dell'allenatore vanno, come poi del resto lo diciamo tutti, al 20%, quindi mettiamo il 20% di colpa agli allenatori. Due, Ciro ha fatto il 100% il suo dovere. Parliamo di Mandragora e Citarelli. Per quelle che hanno gestito per grandi linee il campionato dell'Ischia, perché Ciro ha gestito le ultime 4 partite. 40% l'altro 80% va suddiviso per 70% per la società, la parte della società, e l'altro 10% gli stessi tifosi, che poi si lasciano troppo trasportare da quello che sono le parvenze e non quello che sono le realtà della questione. Sentiamo anche Vanesini, si è individuato i responsabili di quest'anno nerissimo nonostante le aspettative felici. Io penso che le colpe, come sempre, vadano suddivise. E ovviamente l'allenatore ha sì una responsabilità, però, appunto, come diceva mister Impagliazzo, è comunque una responsabilità dei due precedenti allenatori, non dell'ultimo, ovviamente, non di Ciro Bilardi, ma è una responsabilità comunque relativa. Poi ci sono tante altre componenti, c'è la società, ci sono i calciatori, c'è la tifoseria, ci sono tante cose che contano in una stagione. E quindi penso che dare la colpa ad un singolo elemento sia assolutamente riduttivo e sbagliato, e ci sono tanti fattori che concorrono ad un successo o un insuccesso. No, io sono d'accordo, non si può addossare la colpa solo su una persona, ci sono tanti tipi di responsabilità diversa. Lo spogliatoio, che era una polveriera, io non ho condiviso nemmeno la scelta della società, che si è affidata troppo, dando una delega con poteri troppo illimitati a chi poi nel campionato di Serie D non aveva esperienza, assolutamente, nonostante l'età, però aveva esperienza un anno in eccellenza e poi tanti campionati inferiori, e spesso si è ritrovata un po' ostaggio la società in alcune decisioni, voleva adottare delle scelte diverse, non lo ha potuto fare, così come anche i tifosi, come giustamente sottolineava mister Impagliazzo, che hanno creduto una parte ai tifosi, non tutte, in una maniera esagerata in questo progetto. No, ma secondato quello che poi sono determinate scelte, che sono le scelte che poi vanno a influire sull'andamento di una stagione. parecchi hanno assecondato. Gli è stato anche permesso però di influire. Qualcuno si è permesso il lusso di consigliare allenatori, giocatori. Alle volte proprio imporre, come nel caso di Gianni Di Meglio, perché quello fu acquisito Di Meglio quasi per volontà popolare, insomma ci fu una richiesta piuttosto forte nelle vacanze natalizie a Nicola Crisano. Ecco, io con Pangrazio Arcamone vorrei trattare anche due argomenti, poi abbiamo un collegamento telefonico con un tifoso che ci ha chiesto di intervenire da casa. Pangrazio, due argomenti in una domanda solo. Il primo sono dichiarazioni del sindaco Giosi Ferrandino, eppure lui parlava dell'arbitraggio e all'Anza diceva che se queste sono le giacchettine che ci mandano non vale neppure la pena iscrivere la squadra del campionato. E poi ti chiedo anche di introdurre l'argomento futuro. Domani Carlino dovrebbe essere a Ischia. Ma è stata... Io non lo so se poi l'ha detto effettivamente Giosi Ferrandino, perché lui... è un politico, difficilmente, una persona intelligente, difficilmente si lascia andare in questo genere di esternazione. Voglio sperare che sia stata una frase mal interpretata oppure un momento, un errore dettato dallo sconforto per una sconfitta che aveva spiazzato un po' tutti, perché tanti potrebbero anche malignare su una frase del genere, perché c'è già chi dice ormai a giochi fatti, a bocce ferme si è proceduta all'elezione del sindaco, tutti quanti incominciano a smarcarsi incominciando dal sindaco, e i cattivi, i maligni, quelli che vedevano con ostilità pure la sua ricandidatura a sindaco, già stanno dicendo, noi lo dicevamo da prima, che lui sarebbe andato via, si sarebbe defilato non appena... Senti, su Carlino che domani viene a Ischia? Io comunque ti ripeto, io non credo tanto a questo fatto che sia stato di Giuseppe Ferrandino, perché Giuseppe Ferrandino è un vincente nato e non è proprio il tipo che si mette a dire queste cose. Vabbè, detto questo, poi il futuro, Carlino domani sarà a Ischia, voglio sperare che si getteranno le basi per un futuro senza troppe tribolazioni, un futuro solido, fatto con persone in grado di dare prima dignità e lustro da un punto di vista proprio di immagine a questa società, e poi formare una grande squadra. Voglio sperare che tutto, anche per quanto riguarda il passato, venga tutto messo a posto, perché mi risulta che c'è ancora qualche problemino non di poco conto da sistemare. E Carlino è una persona, un grandissimo imprenditore, nella sua vita è giovanissimo, ha fatto quello che ha fatto, è stato capace a costruire un impero, segno evidente che ha l'intuito per fare le cose e per farle fruttare. Se lui ha deciso di fare quello che vuol fare Ischia, evidentemente lo fa con cognizione di causa, perché sa di avere la disponibilità economica e lo spessore proprio. E speriamo che faccia cose eccellenti. Voglio sperare che, comunque, ti ripeto, la Green Island, queste cose, io voglio sperare che non ci siano sorprese per quanto riguarda il passato e si continui sulla scia del passato. Per quanto riguarda però la società, fatto le dovute epurazioni, è brutto il termine, però a me piace. Allora, io, Pangrazio, chiedo cortesemente a tutti di essere un po' più sintetici, perché abbiamo due collegamenti telefonici da dover fare, non più uno. Ci sono anche e saranno sintetici i nostri interlocutori qui a non cavo. Solo calciatori e allenatori, ci scrive Michele Verde, è stato ignorato anche un valido preparatore atletico isolano come Michelangelo Di Maio, che ha dimostrato di venire in forma una squadra anche senza ritiro. Ha ragione, mi è sfuggito, prima ci avevo pensato, hanno fatto venire due preparatori da fuori, io non... Voglio nella maniera più assoluta addentrarmi nell'argomento, visto che sono tematiche a me sconosciute, però ho sentito spesso parlare Pierangelo Pesce che se ne intende, e come se ne intende, è stato sempre molto critico nei confronti di questi che perlomeno nel primo. Pertanto Michelangelo Di Maio è una persona che ha dato sicuramente tantissimo in termini professionali, andava riconfermato. Tra poco lo vedremo anche nella canzoncina col quale chiudiamo la Serie D. Rocco Napoleone, spero vivamente che la squadra venga smantellata. Gli unici che per me meritano una riconferma sono Trofa e Sarri. Il resto è da ringraziare per le belle figure che ci hanno fatto fare in campagna e fuori. Un saluto a Emano, che sta riscorrendo un grande successo. I commenti su Facebook si sprecano, poi te ne leggo qualcuno. C'è anche chi ti paragona a Lulic, pensa. Sempre forza Ischia, scrive Rocco Napoleone. Allora, tra un istante chiamiamo i due amici che ci hanno chiesto di intervenire a casa. Si tratta del tifoso Edoardo da Casamicciola e di Enrico Scotti. Prima un flash però con Mister Impagliazzo e Vane Sindi, perché abbiamo toccato l'argomento futuro. Mister Impagliazzo, che futuro prevede per Ischia Calcio? È un futuro al momento ancora di tanti mai, di tanti sì. Ma però io, che ti devo dire, non sono addentrato nella materia. Come faccio a dire, dice domani Carlino sarà Ischia? Carlino è uno che sposa un progetto importante, almeno ho sentito, per quello che leggo sui giornali e voi come organi di informazione, lunedì. Significa che se ci saranno tanti soldi, Schidano non allenerà la squadra, con qualche giocatore Schidano non ci sarà. Allora, bella questa. Sicuramente. È una bella chiusura di pensiero, mister Impagliazzo. Tra l'altro chiedo alla regia, noi abbiamo mostrato Sarnese e Brindisi, la gara playoff, nella trasmissione domenica sera. Adesso se possiamo mandare a scorrere, mentre continuiamo a chiacchierare, anche Martina Franca Salerno, Salernitana, gara che si è chiusa sullo 0-0, valida per la Pool Scudetto. Ivano, un flash sul futuro dell'Ischia. Ale, dopo un anno così penso che ci sia molto da fare, perché comunque è stato, sono stati spesi tanti soldi, sono stati presi tanti giocatori, allenatori diversi e purtroppo non si è centrato l'obiettivo. E quindi credo che bisogna ripartire però con una programmazione migliore, perché poi quello che conta nel calcio è sempre la programmazione. E quindi partire con basi solide per centrare magari il salto di categoria. Allora, questo è il pensiero di Ivano Esini. Nel frattempo la regia porta la nostra attenzione sull'immagine che c'è dietro Mister Impagliazzo, che è una tribuna allo Stadio Mazzella, un grande punto interrogativo, perché non sappiamo ancora dove ci porterà questa estate. Insomma, le ultime estate sono sempre state molto travagliate, noi ci auguriamo di avere un'estate serena. Nel frattempo siamo tornati in studio, io vado a dare la buonasera a Edoardo da Casamicciola. Ciao Edoardo. Ciao Alessandro, buonasera a tutti quanti voi. Allora Edoardo, la stessa richiesta che ho fatto cortesemente agli ospiti di studio la faccio anche a te e a chi interverrà dopo telefonicamente, ovvero di essere estremamente sintetici nell'espressione del vostro pensiero. Ok, senti, io ti voglio dire una cosa, io sono ad Ischia dal 2007, quindi non è che sono un ischitano, ho massima stima di te e anche del signor Pancrazio Arcamone. Volevo dire semplicemente una cosa. Cerchiamo di essere, e mi metto pure io con voi, meno permalosi, cioè nel senso che è vero che questa società ha fatto tutta una serie di errori che sicuramente non ci hanno portato alla promozione del campionato in una lega professionistica, però quello che voglio dire io, visto che dall'altra parte a livello imprenditoriale nostrano, gli ischitani, nessuno mai mette mano al portafogli per avere una squadra decente e quindi lottare, diciamo, per quello che secondo me compete all'Ischia, cioè almeno un campionato di Lega Pro. Purtroppo, cioè, io non vedo diciamo altri orizzonti se non quello che praticamente ci sono sempre persone che vengono al di fuori di quello che è questo meraviglioso scoglio che anch'io amo da 5 anni a questa parte, però se non ci sono queste persone che praticamente vengono a investire sull'isola di Ischia, qui praticamente a livello competitivo non si fa mai nulla, quindi io diciamo ci andrei un pochino cauto su questo fatto di essere tra virgolette un pochino permalosi nel considerare magari tutta questa serie di personaggi. No, no, io diciamo, mi permetto di dirti che non si tratta assolutamente di permalosità, anzi, sì. Se andassi a spulciare il passato più recente dell'Ischia Calcio, ti potrei dire che proprio i tifosi nei confronti di un dirigente che definì imbecilli in un momento di ira si scatenarono, crearono una lunga serie di querele. Ti ho fatto parlare, adesso mi fai rispondere a me. Quest'anno è stato fatto molto peggio, non ho visto nemmeno una parola, ma non si tratta di permalosità. Io ti posso elencare una serie infinita di errori che hanno fatto ridere la campagna intera. E poi ci sono dei valori, ci sono dei valori che vanno al di là. Io l'ho detto prima in trasmissione, tu forse non mi hai ascoltato. Se il prezzo per vincere un campionato di Serie C o di Serie D o quello che vuoi tu è il doversi mettere la propria dignità sotto i piedi, a me la prima categoria va benissimo. Poi rispetto l'opinione di tutti. No, ma sono d'accordo con te, però dall'altra parte, no, quello che dico io, cioè è mai possibile che noi, Isola d'Ischia, non riusciamo ad esprimere un cavolo di classe imprenditoriale? Ma riesce a fare una su questo io sono d'accordissimo con te, Edoardo, guarda, sfondi una porta aperta, perché noi qui spesso lunedì sera abbiamo spesso provato a pungolare, ma purtroppo in vano, l'imprenditoria ischitana che purtroppo è sempre sorda a queste che sono le esigenze del problema. No, ma io sono d'accordissimo con te su questo, l'imprenditoria ischitana deve essere più partecipe. Io mi permetto di dire solo una cosa, quando sento parlare di cosiddette invasioni, è logico che se una serie di imprenditori della terraferma viene ad investire sull'isola d'Ischia, penso che deve avere un proprio tornaconto personale. Non è che vengono a investire dei soldi semplicemente perché, diciamo, vogliono portare questa squadra, diciamo, a quelli che poi sono stati i gloriosi trascorsi degli anni. Sì, però scusami Edoardo, non facciamo confusione. Pangrazio, quando parlava di invasione, si riferiva soprattutto a calciatori, allenatori, staff tecnico, anche giornalisti. Io quando parlo di colonizzatori parlo delle persone che sono poco incline al rispetto degli altri, e chiaramente sono grato a chi viene dalla terraferma, questo l'ho sempre detto, perché a Ischia c'è un'insensibilità verso tutte le tematiche sociali, questo l'ho sempre detto, e ci dobbiamo vergognare di ciò. Però caro Edoardo, io l'ho detto prima a microfoni spenti, lo dico adesso a microfoni accesi, io a casa mia, mio padre, io sono figlio di una famiglia numerosa, dicevo che è meglio mangiare pane e cipolle con dignità che aspettare uno che ti porta una fetta di carne e dopo dice che sei un pezzente. Caro mio, io questo qui voglio dire, certo mi rendo conto perfettamente che c'è chi che, dovendosi preoccupare financo di allestire il palinsesto della televisione, e chiaramente ha i suoi problemi, e però a tutto c'è un limite, caro Edoardo, tu tante cose non le sai. Se noi abbiamo una certa indignazione e su fatti dovuti, noi siamo grati, eternamente grati a chi viene dalla terraferma, però che non calpesti la nostra dignità di povero. Scusami Pangrazio, tra l'altro Edoardo, tu dicevi che sei a Ischia dal 2007, io ti posso dire, scusami, con estrema sincerità ti posso dire che il bene dell'Ischia in passato hanno fatto tanti forestieri, tra virgolette, tutti sono stati trattati benissimo, perché non hanno avuto, però erano gente diversa. Cioè, qui noi non stiamo valutando, non abbiamo una sorta di chiusura nei confronti della terraferma, abbiamo una chiusura nei confronti di chi fa certi, di chi dà vita a certi atteggiamenti che sono francamente censurabili. Spero che questo ti sia chiaro sia a te che agli amici da casa. Ti posso dire una cosa, scusami. L'ultima, poi chiudiamo perché siamo andati già molto oltre il tempo a nostra disposizione. No, ma io ero anche solidale con il signor Alcamone, con la schifezza che gli hanno fatto due volte, il fatto che comunque l'hanno esautorato, perché io poi ho seguito durante l'anno, quella è stata proprio una schifezza proprio totale. Soltanto che quello che non riesco a capire io, no, è il fatto che comunque queste persone che vengono a investire sull'isola di Ischia, cioè è un po' difficile poter avere la botte piena e la moglie ubriaca. Beh, oddio, io che devono avere un tornaconto ci sto. No, non nel senso che devono offendere le persone, però purtroppo sicuramente quest'anno è stato proprio, vabbè, c'è stata una degenerazione totale, però a me il rammarico principale, sai qual è? È il fatto che comunque non riusciamo a livello imprenditoriale isolano a costruire un qualcosa di nostro che ci potrebbe essere tranquillamente. Su questo ci troviamo. Edoardo, scusami se ti tolgo la parola, non sono certo educatissimo, però ti devo salutare perché il collegamento telefonico è durato davvero tanto e noi per chi chiama da casa abbiamo dei tempi molto stretti, tra l'altro siamo anche in ritardo, quindi io ti chiedo scusa, ti saluto, devo dare spazio anche al prossimo che ci chiama da casa. Comunque ho capito cosa vuol dire Edoardo e lo condivido, perché il mondo imprenditoriale ischiano deve essere più presente, più partecipe in queste dinamiche, poi che chi venga anche da fuori abbia un tornaconto ci sta, ma noi abbiamo sempre apprezzato la sincerità di Rello Carlino, il quale l'ha sempre espresso candidamente. Se poi si debba mandare via Trofa, Savia, i vari ischitani, ancora un attimo una pubblicità perché c'è il prossimo evento telefonico, ci ha chiesto di intervenire Enrico Scotti, che saluto, buonasera. È in diretta, pronto, buonasera. Spero che non mi dica di essere estremamente sintetico, perché è obbligatorio per tutti, poi altrimenti devo andare a leggere su Facebook cose che non mi piacciono affatto. Grazie, perché ti sei attardato per venire. Ancora più sintetico di quello che bisognerebbe allora, essere normalmente. Innanzitutto buonasera. Buonasera. Posso articolare il mio dire? Sì, in maniera sintetica, cortesemente. Allora, io ho l'impressione che noi in effetti stiamo continuando a sbagliare obiettivi e personaggi. Io ho ascoltato con attenzione la telefonata di chi mi ha preceduto. Parlava di clima nei confronti di coloro i quali vengono a Ischia ad investire. Allora io vi dovrei chiedere qualcosa, ma voi sapete chi è la società dell'Ischia Isola Verde? Sappiamo che c'è come presidente Prospero Santo. C'è ecco, complimenti, generale. Complimenti. Allora detto questo, noi dobbiamo a un certo punto chiamare per nome e cognome quelli che sono i protagonisti. Questa è l'unica società al mondo in cui due dirigenti che lo Zampognaro Pancrazio ama definire stipendiati, dipendenti, riescono a gestire in toto tutto quello che in effetti è competenza della dirigenza. Quando si è costituita questa specie di società, si è riusciti a far passare un atto costitutivo in cui a due direttori, uno dell'area, non so come si definisce, economica, stati generali, non so come si chiama, e un altro direttore generale, le competenze che vanno dalle stringhe delle scarpe al tesseramento di tutti. Quindi arrivato a un certo punto di responsabilità, i soci dirigenti, se esistono dei soci dirigenti, sono zero le responsabilità. Le responsabilità cadono esclusivamente sui due direttori. Cioè, tanto per fare un esempio, vogliamo parlare di una riunione che ci è stata contrabbandata e tu ne hai fatto oggetto di una serie di trasmissioni. Quella dopo Casarano, si è parlato che si era riunita la squadra e alla fine la squadra aveva deciso la riconferma di Mandrago. E quando di più falso ci sta, su 22 calciatori, 20, no 19, 20 erano favorevoli all'esautorazione di Mandragora. I due direttori hanno deciso di mantenere Mandragora per poi propinarci una settimana dopo la querel e la leggenda metropolitana di Bilardi. Allora noi la dobbiamo smettere. Noi, per quanto riguarda il futuro si chiama Lello Carlino. E non però io qui ce la vedo una responsabilità della società, perché se io che metto i soldini faccio comandare a Pangrazio e poi non condivido quello che fa Pangrazio, dico Pangrazio, ma cosa condivido? Aspetta un attimo, parliamone. Ci sono stati dei predecessori degli attuali pseudo dirigenti. Io ho parlato con un tale signor Antonio Esposito al secolo Coconuta, intervistatole, fatevi dire che cosa hanno combinato questi signori, i signori Crisano e compagni. Oggi come oggi andate a chiedere al presidente Prospero Santo qual è la sua opinione su coloro i quali hanno retto le sorti della sua società, di quella società di cui lui è presidente nulla decisionale. Ma potremmo chiamarne, deciso niente. Potremmo chiamare un dirigente a caso, il malcontento è diffuso generale, quindi credo che le risposte non siano molto. Allora noi dobbiamo fare uno spartiacque preciso, perché oggi questa è la turbativa in essere, quella di difendere se stessi facendo, contrabbandando e facendo finta che gli ischitani, gli organi di informazione sono contro il gruppo Carlino e i soci. voci che lo affiancheranno. Questo è determinante per il futuro. Senta, ascolti, senza questo momento di chiarezza non ci sarà mai un futuro. Io ho tempi molto stretti, c'è una domanda di Pangrazio Arcamone, poi io ne voglio fare una anche io, però dobbiamo essere molto sintetici. Io le volevo chiedere di Coscotti. Ho bisogno di ancora 20 minuti, comunque andiamo. Sì, ma c'è il foglio di Vanesindi che è venuto qui apposta e ha fatto gol, ragazzi, dobbiamo anche dargli un minimo di meriti. Andiamo avanti. La domanda che volevo fare io a Rico Scotti, lo sentiamo anche Pangrazio Arcamone, cercano di farlo rispondere a tutti e due, e su quella clip abbiamo mandato in onda le dichiarazioni di Nicola Crisano, rilasciate quest'oggi alla strada campana. No, io condivido in pieno quanto hai detto, però una cosa ti vorrei chiedere: non trovi colpevole il comportamento di De Vivo e di Antonio Pinto, due dirigenti che hanno dato quello che tutti quanti sappiamo, però che alla fine non si sono assunto la responsabilità di chiamare all'ordine questo signore che ha fatto il bello e il cattivo tempo? Sì, che era un po' quello che dicevo io, se ci metti i soldini non condivido quello che fai, no. Io dico, che l'errore originale è l'aver ratificato un atto costitutivo che affidava ai due direttori il potere decisionale assoluto. De Vivo è stata la prima vittima. Ma non era in grado di intendere e di volere quando andò a fare questo. Crisano, la Ischia ci è arrivata per De Vivo. Lo sapete tutti quanti che Crisano ha detto che è arrivato per De Vivo, si è andato a prostituire con De Vivo già durante il campionato, quando Billone era allenatore, lo sapete tutti. Senta, invece su quelle dichiarazioni di oggi al mattino... Sono le dichiarazioni di uno che in effetti si trova a passare nel campionato di Serie D e non sa neanche di quello che sta parlando. L'Ischia, nonostante le collette, nonostante le miserie diffuse, ha avuto sempre dei crediti presso il comitato interregionale allucinanti. Noi siamo riusciti ad iscrivere l'Ischia mai per presentazione diretta, arrivavano i soli bonifici. Siamo riusciti ad essere parte integrante del comitato interregionale nella presidenza Punghellini, con una serie anche di nomine alla società dell'Ischia Isolave. Quindi quello che va dicendo il signor Crisano, secondo me, fa parte di quell'entourage mentale, perché io dico, noi siamo diventati questa la società delle fotografie. Io non ho mai visto tante fotografie, il primo ciuffo d'erba che nasce al collo con Crisano che accarezza il ciuffo d'erba, il primo pallone che viene buttato al collo è Crisano che si fa la fotografia, Luigi Fiore che mette ad asciugare i calzettini e Crisano che si fa la foto, la mutandina intima di Sarri e Crisano si abbraccia la mutandina e si fa la foto, poi arriva un massaggiatore. Noi privilegiamo, se oggi Pangrazio sta ridendo ed è stato fatto fuori dal mattino perché non ha consentito di fare mettere fotografie di Crisano e fare i panegirici come... Però Enrico, nelle ultime due settimane sono stati due belli articoli. Si è rifatto, le ultime due settimane. Anche Crisano. La fotografia e tutto quanto. Direttore, concluda perché la devo salutare. Devo concludere, non ho incominciato ancora. Allora ci vuole un'altra trasmissione dopo, le do appuntamento domani sera con Meteo Romano, così continua. Vi rendete conto del danno morale che Ischia Sportiva ha ricevuto in questo campionato? C'è molto poco da ridere, è una sofferenza continua, dei deficienti della terraferma che si atteggiano a operatori calcistici, ci mettono il cappello in testa per quello che noi abbiamo combinato quest'anno. Io dico noi, per quello che hanno combinato Crisano e Company, ma ce ne rendiamo conto? Bene, allora io direi che se non ci sono domande da studio mi permetto di dire, Alessandro, ti voglio pregare di una sola cosa. In maniera sintetica, direttore. Però sarò sintetico. Tu sai che io mi diverto, non so con quali risultati, a tenere una rubrica sul Dispari, lo sai benissimo. Poiché ho degli impegni domani e dopodomani, il mio articolo l'avevo già preparato. Mi hanno dalla terra, tra l'altro leggo 4 giornali al giorno. Ahimè, non leggo il mattino e credo che poi sono fortunato di non leggere il mattino se ci sono certi corrispondenti. Però detto questo, ti posso assicurare che quello che tu hai evidenziato in quella clip è una cosa che mi ha offeso, ma di Enrico Scotti, ha offeso Ischia Sportiva. Allora ho invitato e sfidato il signor Crisani, però scritto, di intervenire direttamente, non con quelle telefonate loro in televisione, deve venire a riferire quello che ha dichiarato con le motivazioni. Io ti prego solo di ospitarci e sarà una allora lo facciamo in diretta l'invito, se bellissima lunedì prossimo, tra due lunedì, se accettate l'invito Enrico Scotti e Nicola Crisano disponibile qui. È un invito che facciamo ufficialmente a telecamere accese. Dunque, io l'ho sfidato sul giornale, poi dopo oggi approfitto e ti chiedo ospitalità. Allora, tra due lunedì, Enrico Scotto e Nicola Crisano qui in trasmissione. È un invito che facciamo ufficialmente a telecamera accesa. Però dobbiamo chiudere le porte dello studio e le chiavi le devo tenere io. No, ma questo dirlo porta male, perché un vecchio confronto non si è mai fatto, forse anche per dire queste cose. Io lo ricordo perfettamente. Chiudiamo anche il telefono, perché ormai il tempo è andato. Grazie, Enrico Scotti. Allora, dobbiamo chiudere la pagina sulla Serie D, allora la canzoncina, la nostra sigla di chiusura, poi la pubblicità e subito il forio. Ve la presento la nostra sigla di chiusura, perché quest'anno cosa ci ha accomunato a tutti, sia che sia un allenatore, un giornalista, un opinionista, un dirigente, è la circostanza che al mattino tutti quanti ci alziamo allo specchio, non possiamo fare altro che dirci io vengo dopo il DG. La The Important Pilotat Band è lieta di presentare a tutti voi Aurora me l'han detto, Nicolino vieni a letto, ancora una chat e ci rifletto, a letto, ci rifletto, tu sei così santo ed io me ne vanto, perché me la suono e me la canto, santo. Me la canto. E allora Brunello, quando vieni a recitare assieme a me, perché altrimenti mi addormento senza te. Vengo dopo il DG, vengo dopo il DG, vengo, mi metto lì. Vengo dopo il DG, vengo dopo il DG, per star vicino a Zivelli. DG, DG, DG, importante, DG, vengo e rimango lì, posto dopo il DG, è un grande amico mio, DG, DG, vengo e rimango lì. Posto dopo il DG. Ma quale generale? Io conto più di Ferrandino, figuriamoci poi di Lello Carlino. Ferrandino, Lello Carlino. E la stampa che gufa, il fatto è che mi stufa restare fino all'ultima bufala. Mi stufa. Stampa gufa. E allora Brunello, io ti aspetto, non ti aspetto, non lo so. Mi hai fatto prendere Marzocchi che troppi ne fa di tocchi. Vengo dopo il DG. Vengo dopo il DG, vengo, mi metto lì. Vengo dopo il DG, vengo dopo il DG, per stare vicino a Zivelli, il mio cugino. The Important Pilotat Band, al flauto Cosimino, alle zampogne Pangrazio Antonio, alla voce la chioma fluente più pilotata della campagna. Direzione artistica del maresciallo. Un ringraziamento ai comandanti di impresa Guidone e Pocek. Vengo e rimango lì, posto dopo il DG. Vengo e rimango lì, posto dopo il DG. Hotel Le Querce, un panorama incantevole per i tuoi momenti importanti. Matrimoni ed eventi in ambienti eleganti e raffinati, l'esclusivo in ogni particolare. E per gli sposi, una meravigliosa suite per la prima notte. La cornice unica che rende il tuo evento indimenticabile. Hotel Le Querce. Per la tua salute scegli Fisio Aragonese. Medici e professionisti con attrezzature di nuovissima generazione hanno la soluzione per ogni tuo problema. Laser ad alta potenza, TECAR, SIT, riabilitazione ortopedica, neurologica, posturale ed elettroterapia. Siamo in grado di ridurre un'infiammazione, togliere il dolore, migliorare il movimento articolare, abbreviare i tempi di recupero motorio. Grazie alla pedana propriocettiva Tecnobody curiamo le patologie di anca, ginocchio, tibiotarsiche, lesioni meniscali, traumi della caviglia, soprattutto nel periodo post-operatorio. Ginnastica correttiva per bambini, ginnastica posturale per adulti e Pilates. Presso il Centro Medico Aragonese, in via Giambattista Vico, a Ischia Ponte. Fisio Aragonese, per il tuo corpo, per la tua salute. Una grande squadra ha bisogno di un grande pubblico. L'Ischia Isola Verde quest'anno punta in alto. Diventa un sostenitore del progetto gialloblu. Un grande pubblico per una grande squadra, per una stagione indimenticabile. Da un'idea di Pino Buono, Buono Pubblicità. Dal 1962, la pubblicità sull'Isola d'Ischia. Allora, siamo tornati in studio con il commento da bordo campo, abbiamo archiviato la pagina dedicata alla Serie D. Io ne approfitto per dirvi che stasera non parleremo del Procida Calcio, ma la settimana prossima, il prossimo lunedì, faremo una puntata quasi interamente biancorossa, perché verranno la Procida, Mister Cibelli, Mario Lubrano e anche diversi calciatori tifosi, quindi faremo una puntata molto simpatica dedicata tutta al Procida Calcio. Adesso passiamo però al furio di Vano e Sindi. Ieri nella trasmissione a domenica abbiamo mostrato i gol, adesso ci andiamo a rivedere invece la sintesi completa di questa gara play-out, di questa vittoria importantissima del Forio, questo 2-0 sul Cellule sul Civo, e iniziamo a commentare con gli amici in studio. Partiamo subito da Ivano. Io ieri dicevo in trasmissione un primo tempo con un atteggiamento piuttosto prudente da parte di Mister Leo dei propri ragazzi, in panchina Musella, in panchina Isindi, una punta sola in campo. Nella ripresa poi sono arrivati i gol vittoria. Sì, nel primo tempo comunque il Succivo ha cercato di fare la partita e non, probabilmente la tensione era tanta, forse anche troppa, per un obiettivo importante, nel quale comunque una partita nella quale noi avevamo tutto da perdere, perché comunque abbiamo 2 risultati su 3, insomma forse anche un divario tecnico rispetto al Succivo, e quindi abbiamo sofferto penso anche sotto l'aspetto psicologico. Poi nel secondo tempo sono costretti a sbilanciarsi per cercare di vincere la partita, perché comunque lo 0-0 ci dava la salvezza, anche se con i supplementari, e quindi loro si sono sbilanciati e praticamente hanno fatto quasi una difesa a 2, forse 3 al massimo, e quindi siamo riusciti ad approfittarne a vincere la partita. Credo che senza alcun dubbio, poi sentiamo anche Mister Impagliazzo e Pangrazio Arcamone, i valori in campo, lo accennavi anche tu qualche istante fa, erano molto diversi. Insomma, il Forio tra valori tecnici e esperienza aveva una se non due marce in più rispetto all'avversario. Sì, credo di sì, anche penso che l'abbiamo dimostrato anche nelle due partite di campionato, sia in casa che fuori casa, praticamente 2 settimane fa. Però ieri credo che comunque purtroppo questa differenza non si sia vista più di tanto, perché comunque è una partita secca nella quale insomma può succedere di tutto, e loro ovviamente hanno avuto un'ulteriore possibilità dal pur avendo terminato il campionato penultimi, e la volevano ovviamente sfruttare al massimo. Quindi il primo tempo abbiamo sofferto, credo, più del previsto. Tieni tu la parola, Ivano, perché siamo con le immagini al secondo tempo. Tra poco dovrebbe arrivare anche la tua giocata e poi il tuo gol, perché sei stato decisivo anche nella realizzazione di Gaetano Musella, un gol che poi rivedremo anche alla Moviola, perché forse c'era una dubbia posizione, più no che sì, però poi lo rivediamo tra qualche istante con l'ausilio e la regia. Allora, io continuo a raccontare io questa stagione del Forio, però quando tu vedi la tua giocata, il tuo assist, certo, che era Musella, prendi pure la parola e ce lo racconti tranquillamente. Questo è Pasqualino Accurso, sì, mi sembra, che va vicino al gol. Quest'anno è stato un po' sfortunato Accurso negli ultimi metri, ricordo, sì, la gara col Casalnuovo. Ti lascio proprio la parola. Sì, questa è l'azione del... dalla mia prospettiva io temevo che, visto che anche in altre circostanze il guardalino aveva alzato la bandierina, e temevo che lo facesse anche in questa occasione. Per fortuna non l'ha fatto e insomma è andata benissimo così. Bene, allora, mister Impagliazzo, la salvezza del Forio ci rende tutti contenti, una squadra esovana che parteciperà al campionato di promozione anche l'anno prossimo, una salvezza che però, una volta conosciuto l'entità dell'avversario, era francamente poco in dubbio. Ma io ho visto l'unica partita del Forio, è stata ieri pomeriggio, perché sul 2-0 sono andato via dal Mazzella per andare ad assistere alla partita del Forio, perché comunque è una squadra isolana, una squadra che tengo a cuore, dove ho avuto il piacere di allenare 2 anni. Una volta abbiamo vinto il campionato di prima categoria, un altro anno andai al campionato in corso e siamo riusciti a salvare. Onestamente, come diceva giustamente Ivano, in una partita secca può accadere di tutto, però il Forio nelle proprie file hanno 6-7 giocatori che per 6-7 anni hanno fatto campionati di quarta serie, i vari vedi di Nolfo, Di Meglio, Accurso, Musella, Impagliazzo, lo stesso Verde, che forse è stato l'unico all'altezza della situazione, guardando la partita di ieri. Per il resto tutto questo divario non lo si è visto, non lo si è visto forse per l'accumularsi della tensione, perché anche parecchi giocatori del Forio sono avanti negli anni, e questo ha fatto sì che si temesse più di tanto l'avversario, che guardando la partita mi sembra veramente pochissima, ma pochissima cosa. È una partita che si poteva chiudere con estrema tranquillità, perché poi io lo dicevo a qualcuno sulla tribuna, non ci vuole niente per subire un calcio d'angolo per una disattenzione, una palla rimane impallata nell'area di rigore, arriva uno con una punta, ti precede e ti mette la palla dentro, poi va a raddrizzare la partita. Si poteva fare meglio, però poi ho letto anche le dichiarazioni di Flavio stamattina, che è un mio carissimo amico. Devo complimentarmi con lui, perché comunque ha dovuto, Ivano è testimone, hanno dovuto lavorare in condizioni precarie per tutto l'arco dell'anno, e poi non è facile venire a capo di determinate situazioni quando durante l'annata non hai il suffragio della benché minima cosa. Mister Impagliazzo lo sa bene, perché mi sembra che anche all'Acquameno all'epoca si visse una situazione societaria un po' particolare, una società che vi seguiva poco, mancava anche la nafta per fare la doccia. No, vabbè, ma do a memoria, quindi potrebbe essere anche inesatto. Quando c'è stato Monte, fin quando c'è stato io, c'è stata sempre la buonanima di Luigi, le cose per grandi linee andavano bene, perché Luigi provvedeva alla maggior parte delle cose. Ma grazie al Cavone. Si potevano avere degli screzzi al riguardo tecnici, però erano bellissimi quei tempi. Pangrazio, la salvezza del Forio ci fa piacere a tutti, ecco, l'unico rischio era probabilmente sullo 0-0 che un rimpallo, una situazione di gioco potesse poi creare il gol del successivo e complicare tutto. Sì, non nascondo veramente che ho provato una grande gioia, d'altronde io sono tifoso delle squadre di Ischia, l'anno scorso ho sofferto per la situazione dell'Accameno, quest'anno stavo in angoscia per il Forio, e non ti nascondo che a un certo punto non mi sapevo neanche spiegare come mai una squadra con nomi così importanti si trovasse in una situazione del genere. Io avrei scommesso all'inizio che il Forio disputava un campionato all'avanguardia. Evidentemente quello che ha affermato Franco Imbagliazzo è la chiave di lettura, se vogliamo, di tutta questa storia, perché i giocatori vero rappresentativi, giocatori che dal passato illustre, però purtroppo la carta d'identità faceva difetto, perché quando arrivi avanti con gli anni, specialmente in queste categorie dove la freschezza atletica, la gioventù la fa da padrona, vieni sistematicamente sopraffatto. Comunque il rischio che potesse in qualche modo essere una giornata difficile c'era, perché giustamente una palla sporca, un tiro sbagliato, per fortuna che c'è Verde, che io credo che Verde ha avuto una carriera non consona, anche se su livelli dignitosi, però non consona per il suo valore. Verde, dicevo, è stato sempre accorto, una che dà massima garanzia, e anche nelle situazioni più intricate se l'è cavata la grande. Comunque voglio sperare che quello che dice Nicolella, per una volta voglio sperare che possa essere attuabile. Ci arriviamo da un istante, perché venerdì ha parlato di eccellenza, la politica è un progetto che il Presidente circola sempre a Foglio, sì, poi c'è di fronte sì, va bene, parliamo dopo, però una cosa è certa che volevo terminare, che effettivamente, non potendo usufruire di una struttura a tempo pieno per poter allenare la squadra, inevitabilmente poi ti devi accontentare di fare quello che puoi fare. Effettivamente, Ivano, poi leggo qualche messaggio che è arrivato per te. La struttura sportiva per poter preparare gli impegni della domenica è importante. Io ricordo che sin da quando c'era Mister Iovine, diversi anni fa, c'era sempre qualche diatriba con le scuole calcio che non vi lasciavano poi così tanti spazi. Sì, noi due giorni a settimana, in particolare il martedì e il giovedì, dovevamo lasciare il campo prestissimo, e per questo motivo il martedì ci allenavamo a Panza, tutti i martedì, e il giovedì facevamo allenamento dalle 2 alle 3 e mezza, 4 meno un quarto. E ovviamente non è il massimo per poter allenarsi. Anche perché la maggior parte di questi ragazzi lavorano, allora non possono. Chi va a scuola, insomma, comunque chi va a scuola, chi lavora. Qualcuno da Napoli, insomma, era una situazione veramente difficile. Allora, sì, questa è l'immagine dello stadio Calise della Movio. Guardate che immagine bellissima, fatta dall'alto. Ci sono dei messaggi per Ivano Esigni, nel frattempo noi continuiamo a far vedere l'immagine dello stadio Calise. Mike Desiano ci scrive: la discesa di Ivano Esigni su quella fascia destra e l'assist per Musella somigliava alla discesa di Lulic e all'assist per Candreva in Lazio-Inter. Forse è tifoso della Lazio, per questo. Tifoso della Lazio, si era capito. Però ti ha fatto, insomma, un bel paragone con un giocatore come Lulic. E poi ringrazio la trasmissione di Bordocampo per averci fatto i complimenti per tutto l'anno, apprezziamo molto i vostri complimenti, soprattutto grazie ad Alessandro Moro per la sua gentilezza. Vabbè, questo mai lo leggiamo, perché sembra altrimenti, Mike, che ti ho gratificato con una bella banconota. Insomma, grazie per i complimenti. E vediamo anche Giuseppe Impagliazzo che cosa scrive: anche questa stagione è passata e per fortuna ci siamo salvati, ora spero che il titolo di eccellenza e tutte le chiacchiere che stanno facendo non siamo come sempre sogni di mezza estate, sì. Ma siamo fatti, avanti Forio. Avanti riducibili Forio, io sentire cosa ne pensate riducibili Forio, il Forio merita di più. Io ai riducibili ho sempre fatto grandi complimenti, questa volta li devo un po' bacchettare, perché ieri durante un'intervista stavano colpendo Savarese con una bandiera, insomma ci è mancata davvero però questione di millimetri, meno di centimetri, che quella bandiera non colpisse Savarese. Ivano, un commento su questi riducibili però facciamo, perché sono stati meravigliosi, alcuni in trasferta, esatto, in casa sì. Non hanno fatto mai mancare la loro infatti, presenza, anche e che per una squadra di promozione sia davvero un lusso avere tifosi così. Assolutamente, anche in posti abbastanza caldi come Mondragone, sono 7-8 ragazzini che ci hanno seguito, sono veramente encomiabili da questo punto di vista. E quindi il ringraziamento va a loro, e anche la dedica per una salvezza che comunque penso che alla fine sia stata meritata. Una salvezza assolutamente meritata, forse ottenibile con un po' di anticipo, sì, un pizzico in più di magari meno sofferenza, di equilibrio, di intelligenza tattica, sì, alla fine ci voleva intelligenza tattica, di buon senso in alcuni momenti di gestione della gara, ripenso alla gara col Casal. Esatto, sicuramente, alla fine bastava un punto sia per evitare i play-out con il raggiungimento del Villaliterno e poi lo superavamo per gli scontri diretta, sia per la differenza con la penultima che ci consentiva, insomma, di non fare i play-out. Purtroppo siamo stati costretti a farli, però è finita bene, quindi siamo contenti di questo. Allora, c'è anche un altro messaggio di Giovanni Giuseppe Ferrandino, il quale ci fa sapere che nonostante lui sia fatto la barba, comunque non hai aumentato di molto il tuo fascino. Ecco, te la pongo così, mi ha scritto un po' più... Da che pulpito, potremmo dire. Vabbè, insomma, queste sono le cose che poi... Ci scrive anche Mario Lubrano, il quale ci parla di una voce che è girata all'acquisto del Procida da parte del Forio, acquisto ovviamente del titolo. Il DG Matteo Lubrano... vuol far sapere che comunque il Procida l'anno prossimo farà l'eccellenza al 100%, e dunque se il Forio acquisirà un titolo di eccellenza come l'avvocato Nicolella vorrebbe, lo ha espresso in maniera chiara venerdì scorso, non sarà quello del Procida. Però su questo io non ne avevo grandi dubbi, anche perché l'estate scorsa già si parlò di questo ipotetico intreccio Forio-Procida e le smentite di Segrazzella furono belle nette. Mister Impagliazzo, il Forio è pronto per fare l'eccellenza? Ma io vedo che... Io lo auguro, ma vedo che negli ultimi anni il solo Nicolella si barcamena affinché porta avanti questo tipo di situazione. Mi sembra difficile. Poi c'è sempre quella problematica, come tu dicevi, del campo, che è una problematica di non poco conto. Io pure quando ho allenato il Forio il campo non era in erba sintetica, c'era una miriade di problemi, dovevi andarti ad allenare in spiaggia, nel parcheggio retrostante al campo, è difficile fare determinate categorie. Se poi ci si incontra con le amministrazioni, con l'altra società, che comunque è una società ben organizzata, quella del Torrione, si può far sì che nasca qualcosa di positivo, però il solo Nicolella non credo che possa farcela portare avanti un progetto. Volevo complimentarmi con Ivano, che ieri o l'anno scorso Ivano l'ho avuto con me all'Accameno e l'ho anche poco utilizzato, però ieri ho avuto modo di apprezzarne le qualità e ho visto un ragazzo che in 20 minuti ha cambiato letteralmente la partita, perché col suo ingresso la squadra trovato profondità costantemente, ha messo soventemente in difficoltà la squadra avversaria, ha fatto fare un gol, ne ha fatto un altro, è stato caparbio su altre 3-4 palle da lui create, ha fatto veramente bene. E tra l'altro non è stata la prima volta, anche nel derby con il Barano l'evoluzione della gara fu legata a De Sindi, che entrò in campo e fece poi il gol pesante, il gol che regalò la vittoria ai 3 punti al Forio. Prima, quando abbiamo visto il gol, mi sono dimenticato di chiederti il perché di quella tua esultanza alla Marco Del Vecchio. No, è autoironia. Assolutamente, quindi non... Pandrezza al Capone, possibilità di eccellenza per il Forio. Poi ci sono altri messaggi, perché qui ci sono le fan di Vano che stanno difendendo il fascino del bombo. La sorella. E la famiglia, allora. Tra poco leggiamo anche i loro commenti. Pandrezza. Ma a Forio potenzialmente ci sono tutte le premesse per poter fare calcio a un certo livello, perché in quanto il bacino d'utenza è importante, il pubblico è passionale, segue la squadra con... costanza, bisogna solamente cercare di trovare un punto di convergenza tra le varie componenti che dovrebbero portare avanti il discorso, perché è impensabile che tutto possa ricadere sulle spalle dell'avvocato Nicolelli, il quale con tutta la buona volontà non può sorreggere in eterno il peso, il costo di un campionato che comunque ha un certo... ti richiede un impegno economico di tutto rispetto, sì. Allora, per quanto riguarda poi la struttura sportiva, non riesco a capire come mai a Barano, tanto per dire, mi risulta anche all'Accameno, ma a Barano, in quanto io vivo giornalmente questa realtà, l'amministrazione ha dato il campo al Barano e le varie scuole calcio hanno orari serali per poter allenare i ragazzi, mentre il Barano può soffrire 5 giorni alla settimana della struttura. Poi per il resto, ti ripeto, a Forio se si mettono un attimino d'accordo, però mi sembra un po' che vivono sulla falsariga di Ischia, tutti quanti sono disponibili a chiacchiere, poi all'atto pratico quando c'è da mettere veramente di tradurre in soldoni, le chiacchiere incominciano a venire i mal di pancia, chi scappa di qua e chi scappa di là. La politica secondo me ha un ruolo di primissimo piano nella buona e nella cattiva sorte. Nel Forio credo nella cattiva sorte in questo momento, perché

Ultima parte del commento di A Bordo Campo. Moviola, ancora qualche messaggio, qualche domanda e poi le interviste a Mike Desiano, tifoso del Foglio Calcio, e al mister del Succivo Cellole, avversario dei biancoverdi. Vogliamo vedere il gol che ha sbloccato la gara, quello di Musella, servito alla grande dal buon Ivano. Lo vediamo, perché vogliamo verificare soprattutto la posizione di Musella, se riusciamo, ecco qui, a creare un fermo immagine nel momento in cui... Gol, la posizione era regolarissima. Gol buono, non c'è l'ultimo. Non è neanche il centrale di difesa. Anche se devo dire che Musella, nella fattispecie, ha fatto un controllo come Buffon fece con Bertolucci. Bertolucci, solo che il portiere si trovava molto più dietro. E dunque è andata bene, un po' meno invece a Buffon in quella partita con Lecce. È finita tutto bene. Meglio che non parliamo di questo argomento, anche perché domenica ci sta un'altra partita importante, che è la finale di Coppa Italia. Allora, quelli che tifano Foglio, la pagina ci scrive: Foglio è una piazza importante, non merita questa categoria. Già da adesso la società si deve mettere al lavoro per la prossima stagione, perché se dobbiamo andare in eccellenza, retrocedere, è meglio che stiamo in promozione. Se il Foglio inizia a vincere, si inizia a riempire anche lo stadio come ai vecchi tempi e ci toglieremo grandi soddisfazioni. Forse è meglio fare un passo alla volta, prima pensare a una promozione che sia meno così, meno problematica rispetto alle ultime stagioni, poi se c'è la possibilità di andare anche in eccellenza. Però Giovanna Balirano, con o senza barba, resta sempre un bel pezzo di ragazzo, e seriamente parlando, prima o poi le soddisfazioni arrivano, è solo questione di tempo, e finalmente stai ricevendo un pizzico di quelle che ti meriti. Mike Desiano vuole precisare quando parlava di problemi societari si riferiva al fatto che ad agosto erano solamente in 4 a fare la preparazione. Adesso ho pensato di... Io ho la tentazione di leggere qualcosa che mi scrive Musella, però mi sa che non posso. Ho pensato di chiamare la scorta adesso che finiamo la trasmissione, perché sarà problematica a lui per farlo andare via da qui con tutto questo attestato. Giorno potrebbe fare anche il decisore. Queste giovane fanciulle che insomma... Allora, abbiamo visto la Moviola, il futuro invece di Ivano Esin. Ivano, il tuo cartellino di proprietà di quale squadra? Dell'Acquameno, quindi prevedi un ritorno... E io sono in prestito al Forio, e comunque insomma in prestito di un anno solo. Poi l'anno prossimo, adesso penso che sia ancora presto insomma per fare discorsi futuri. E ovviamente io parlerò sia con tutte e due le società e poi si vedrà. Indubbiamente io sono Però stato... la tua volontà è Forio? In questo momento direi di sì, perché comunque io a Forio sono stato bene e comunque ho ritrovato un minimo di smalto, e quindi in questo momento è qui, anche perché comunque veniamo da una salvezza fresca, però comunque bisogna vedere insomma. Allora, in maniera molto scherzosa, Gaetano Musella, che ci sta seguendo da casa, scrive: ti giuro, sono abituato, il mister non mi ha fatto mai un complimento, perciò è un grande, e ovviamente legge e ovviamente ride e chiede di leggerlo in diretta. E invece quando rivedremo mister in pagliazzo su una panchina? Quando una squadra mi cercherà, sappi questa squadra che sono amico di Enrico Scotti e ne sono onorato. Quindi difficilmente la vedremo a Ischia. Beh, è una considerazione abbastanza ovvia. Pangrazio Arcamone invece non si muove da lì, l'anno prossimo vediamo qui, commento di A Bordo Campo. Questo è ancora tutto da stabilire, da vedersi, perché con gli stravolgimenti che ci sono all'orizzonte probabilmente tu non starai lì dove stai adesso, io non starò qui, saremo probabilmente sul Monte Pomei a pascolare pecore, io farò lo zambognare e tu pascolerai le pecore. E io sono felicissimo, ci mancherebbe altro. Ivano, mi dai un commento anche sull'altro playout della giornata, Zupo-Vitulazio, perché non giocava solo il Forio, c'erano anche queste... ha vinto lo Zupo 2-0, diciamo, per cronaca, si parla anche di una finale un po' teso, con un po' di tensione nei minuti conclusivi. Ma innanzitutto io credevo che si disputasse in casa del Vitulazio, pensavo che fosse il Vitulazio si fosse classificato meglio, e invece ho letto appunto stamattina che si giocava in casa dello Zupo, che come noi aveva 2 risultati su 3, e anche lo Zupo, sempre come noi, ha comunque sbloccato la partita nel secondo tempo, quindi comunque è stata tirata anche lì, come del resto poi insomma in terraferma è quasi sempre così. Però penso, per quello che ho visto io, che lo Zupo fosse più forte del Vitulazio. C'è sulla barriera di Facebook a bordo campo una foto di Vanno Sindi che esulta dopo il gol, che invito poi ad andare a vedere, sei tu proprio col gesto tipico alla Marco Del Vecchio. Mister Impagliazzo, un bilancio anche su Barano e l'Acquameno, che in questa stagione hanno vissuto con meno tensione la salvezza, anzi per alcuna parte dell'anno, per una parte dell'anno hanno dato anche somme di gloria. Il Barano ha fatto un girone d'andata eccezionale sotto tutti i punti di vista, ma anche proprio numericamente ha fatto dei buonissimi risultati, forse è venuto meno un po' nel girone di ritorno, però non ne sono a conoscenza delle vicissitudini. Invece l'Acquameno è andato ben oltre quelle che erano le previsioni della vigilia, perché non è stata allestita nemmeno un quarto della squadra dell'anno scorso e ha fatto molto molto meglio. Non mi ricordo con esattezza se abbia fatto gli stessi punti del Barano, punto più o punto meno. Uno meno, ma per grandi linee. Però mi sembra che fino all'ultima giornata era un punto. Erano a pari punti fino all'ultima giornata. È stato pure qualche giornata, qualche punto avanti al Barano. Quindi ha fatto un campionato strepitoso per quelle che erano le loro aspettative. Pangrazio Arcamone, a te invece chiedo un ultimo commento sul Casalnuovo del presidente Giovanni Delle Cave, che a noi sta molto simpatico, nonostante ogni tanto alzi un po' i toni, esageri un po', però ci sta comunque simpatico. Casalnuovo ha vinto 5-0 contro la Caivanese. No, io se mi sta, siccome ti ripeto, non sono un ipocrita, se si sta ascoltando volevo dire che a me tutte tranne che simpatico, perché è meglio chiarire le cose, visto che insomma quelle ultime vicende, come si è comportata, non è che è stato proprio il massimo sotto questo aspetto. Comunque credo che stanno avendo, io gli auguro di poter vincere il campionato, perché di poter accedere così attraverso i playoff alla categoria superiore, perché poi in fondo ha speso un sacco di soldi, sarà problematico battere il Miami, però loro hanno dalla loro la consistenza tecnica per poterci riuscire. Facciamo così, Ivano, mi devi fare una promessa: la prossima volta che viene Gaetano Musella in diretta e voi giocatori del Forio tutti da casa a scrivere cattiverie su Facebook. Posso venire anche con lui. Cattiverie ovviamente buone, cattiverie ovviamente ironiche. Allora, siamo in conclusione, io vado subito a ringraziare l'attaccante del Forio Calcio, Ivano Sindi. Ciao Forio, un po' troppo. Ciao Ivano, grazie e buonasera. Grazie a voi, buonasera. Il mister Franco Impagliazzo. Ah, buonasera mister, a tutti. Buonasera e Pangrazio Arcamone. Allora, mister Baldassare, ha fatto un'ottima partita, soprattutto un primo tempo, però forse ha tenuto troppo i due risultati su tre, ha quindi un po' giocato un po' contratto, mentre ha giocato bene, anche se grosse azioni non ci sono state, un paio per parte. Poi ha fatto quelle sostituzioni che hanno cambiato un po' la partita per il Forio. Ma il discorso è un altro, il discorso è che devo solo elogiare questa squadra di ragazzi che fino ad oggi è riuscita a portare avanti il nome con onore, perché secondo me questa è l'unica squadra a livello dilettantistico che gioca senza percepire un compenso, nessun giocatore percepisce un compenso e penso arrivare anche ai play-out con una squadra, a volte abbiamo giocato anche con 4-5-94, cioè secondo me oggi abbiamo fatto un grossissimo primo tempo, un secondo tempo comunque la squadra secondo me è uscita a testa alta, non posso dire niente, cioè più di questo che abbiamo fatto non potevamo fare. Una buona sorpresa di soprattutto di Esindi, il numero 16, quello che è entrato nella seconda sostituzione del Forio, la velocità mobis in difficoltà, forse una difesa che era un po' più stanca anche per, sì, insomma, per il caldo. Sì, no, è il discorso è che noi abbiamo gli uomini contati, cioè è qualche ragazzo ha avuto anche dei problemi di allenamento per varie situazioni di lavoro, allora diciamo si è messo il caldo, che in questi periodi se non stai bene fisicamente, giustamente entrando il 16 che era un ragazzo veloce, infatti io poi ho fatto stringere un pochettino la difesa proprio perché le ripartenze veloci di quello là che è entrato e Musella, che comunque ha un peso non indifferente in attacco, ci hanno messo in difficoltà, però rimane sempre che c'è il discorso, è sempre quello là, elogiare. Di elogiare questi ragazzi, solo i ragazzi, perché a noi siamo stati abbandonati tutti quanti. Pure quest'anno avevo comprato il titolo che succedeva dal cielo. Sì, però si è equivocato un certo discorso dei giovani. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un grande lavoro abbiamo vinto il campionato Under 18, gli allievi, siamo arrivati alle semifinali sia con gli allievi che con la 18 regionale. E quest'anno si doveva basare tutto sulla base della 18 e si doveva prendere quei qualche ne... però si è confuso un pochettino la situazione, tanto è vero che io ho lasciato a dicembre, ho lasciato per divergenze con la società, diciamo con la società, con un paio di persone che fanno parte della società, proprio perché vedevo che i ragazzi giocavano, però perdevamo partite per 1-0, 2-1 per inesperienza, bastava qualche innesto in più, secondo me oggi non recuperavamo, cioè non facevamo neanche lo spareggio, perché proprio poi quando sono arrivato io di nuovo a gennaio abbiamo fatto alcuni innesti come Varca, Di Petrillo, la squadra ha consentito, diciamo, di giocarci i play-out. Se prendevamo pure un attaccante e un centrocampista, secondo me questa squadra poteva salvarsi anche prima. Grazie, bocca al lupo. Vediamo Mike, che è uno dei riducibili. È una chiesa, oh, oh, oh, oh, oh, è una chiesa, oh, oh, oh, oh, è una chiesa, oh, oh, oh. Allora, con Mike, dopo il tifo, l'avete seguito indietro, non è che si è vinta la Champions o qualche promozione, però grande soddisfazione soprattutto per quanto riguarda voi riducibili, che dall'inizio vi ho sempre elogiati durante le telecroniche, non moltissimi, quei pochi sempre dall'inizio alla fine, anche nei momenti peggiori. Ora la soddisfazione si raccoglie oggi. Sì, si raccoglie oggi, siamo molto felici, una stagione tormentata da infortuni, problemi societari, ma alla fine si sono risolti nei migliori dei modi e siamo felicissimi di aver raggiunto questo traguardo. Speriamo per l'anno prossimo di poter ambire a qualcosa di più importante della salvezza. Il presidente parla di acquistare titolo di eccellenza. Ma io sinceramente preferirei fare un campionato di promozione per l'eccellenza, un campionato vero, una squadra per bene, perché a salire comprando su titoli non è che mi piace tanto. Ma adesso aspettiamo, vediamo il presidente. E speriamo che ci vediamo anche un po' i tifosi, no? Insomma, siete sempre voi, ma purtroppo fuori è sempre stata la stessa storia, non c'è niente da fare. Noi cerchiamo di raccogliere il pubblico, ma è abbastanza difficile. Speriamo che è uno degli irriducibili insieme a Mattese, ad altri, eccetera, però solamente c'è un piccolo difetto, ma stasera lo perderà anche perché la Lazio perde, il tifoso della Lazio. Grazie a tutti e forza Furio.